missione avrete l'exp e poi Ma la missione, cioè l'exp potrete ce l'ha. spendere. Ah, ok, quindi ce lo dici tu quando è. Non è che tipo ogni kill prendi un tot di exp. Che No, parole sarà a fine soavi, missione. queste parole. Exp, che bello questo modo di iniziare una sessione. Eppure, non è così. Non è così. Perché noi oggi torniamo e giochiamo la maledizione di Katta, dove Che è l'exp. la 5.0 edizione di Dungeons and Dragons senza i livelli. Assolutamente senza livelli. Si sceglie Quindi. un numero da 1 a 10 e lo mantieni per Quindi tutta la potete vita. fare tutta l'exp che volete, ma è totalmente Potevamo inutile. scegliere il 10. Non lo sapevamo ancora, ovviamente. Esatto. Il 10 si può scegliere solo alla fine della campagna. E quindi bentornati, benvenuti. Oggi serata di Tycoons and Dragons e RIPGDR con la maledizione di Katta, episodio 46. Salute a tutti. Salute anche a me, Andrea Giacomo Vecchi. Salute a Giulio Bosi. Salute al nostro master Enrico Cattabriga. Salutiamo Francesco Arcidiacono, che tra poco ci lascerà per la palestra. Edoardo Saladini, che sta già giocando a LOL. Stefano Valorant, Gamberoni, che basta con sto LOL, sta per portando le favore. informazioni a Roma. E Marco Bosi, che invece, essendo in Germania, può uscire e fare festa. E niente, quindi solito, come diceva il nostro Marco, se tu amico. sei rimasto lì dalla missione di Umbra Impero. Esatto, beh, è già pronto per il prossimo weekend. Devo scoprire se riusciamo a scappare dal villaggio. È corretto. Ma oggi ci concentriamo invece su Dungeons and Dragons. Ma ricordatevi sempre che a prescindere dal gioco ci potete seguire sui nostri canali social: Tycoons and Dragons, RIPGDR, podcast di RIPGDR. Stay tuned, state connessi anche un po' di Looney Tunes perché questa settimana vi prometto che avrete dei nuovi episodi della maledizione di Katta freschi freschi, anche se un po' vecchi in realtà, quindi non così freschi, diciamo stagionati, però non così stagionati, insomma non è un rum del vecchiato di 20 anni, è più un parmigiano reggiano che è ok, insomma, quello che potete trovare al supermercato. E detto Oh, così questo, non infettiamo i nostri follower. Il problema è che le cagate che dici passano lo stesso. eccolo, sprechiamo la mascherina ogni tanto. Ma se volete, posso anch'io. Se volete, aspetta. Anche qua di fianco Questa qua dura 8 ore, io me la metto solo. Se mi dieta, no? sì Allora sì meglio che non lo dico. eccomi. Giochiamo pure, però Ciao potrebbe essere un Antonio, problema con le cuffie. che figo, Bello, eh. No, non so se mi sentite, bellissimo. però. Sì, Sì. sì. Bene. Wow. Ma come c'era tipo uno che aveva il costume da Stormtrooper, è andato a fare la spesa col costume da Sì, l'ho Stormtrooper. Secondo me è il visto. futuro. È il Beh, futuro. l'ha comprata anche Torre, ce l'ha anche Torre quella. Che figata. Questo è carino, ma dovevamo farlo scuro questo, non ha senso così. Comunque vabbè. E niente, Visto? dai. Prima che mi si Sì, annebbi tutto, faccio partire la se lo sigla. facevano scuro non vedevi un cazzo, Oh, però. e no, vabbè, ma come gli occhiali, sceo. Bastava che lo Ah, ho mettessi. Quello, capito. cioè, anzi, vorrei trovarla io una pellicolina. Usa la Sì, in bustina. effetti sì. Beh, dovrebbe prenderlo da là, ma va bene. Oh. Tra l'altro è anche il mirino. Com'è che... già. Sta cacata è la sigla. Ma come cacata? È la cosa di Witcher. Metalcore. Tosta core. Ah, The Witcher me la consigliate come Ok. serie? Non l'hai ancora vista? No. Cazzo fai tutti i Assolutamente giorni? sì. Comunque vi ricordo che quando c'è la sigla di solito Maratona si fa riassunto. Quindi, Bello. visto che io ho fatto l'ultimo di Umbra Imperi, che qualcuno si prenda questa responsabilità. E che quel qualcuno sia Arci. Buona, sembri la Tubi. Aspetta, il ritornello è Cos'è? figo. Aspetta. No, Sembri la Tubi. ma apriamo un libro a Apriamo caso. il libro a caso. Apriamo un libro a caso. 14. il numero 1 pagina... il numero 4. Però tu dici, trovi sempre un 1, 7 e 3. Trovi arcidiacono. Diciamoci la verità. Ero tipo 17. 173, 7, 3, 10, 1, 11. Arcidiacono, due volte, prego. Allora, in realtà il minor numero di riassunti ve lo dibattete tu e Salla praticamente. E io non ci sono mai, come cazzo faccio a rossi? Esatto, io non c'ero. Ma ultimamente ci sei praticamente sempre. L'ultima volta chi è che non c'era? Io l'ho fatto. Guardate che io la penultima volta ho fatto il riassunto. Fatelo allora, fallo adesso. Vabbè, non c'è molto a dire l'ultima volta. Abbiamo litigato mezz'ora. Strano. Sì, ma stavolta con mezzo. È che io strano. Oddio, abbiamo vampiro. Poi abbiamo organizzato l'uscita da Vaktardgrad mentre chiudevano la città perché anche lì è arrivato il coronavirus. E poi niente, poi ci stiamo andando dalla strega. Nel frattempo ho detto ci sono altre quattro guardie di notte mentre passavate così. Ah, è vero, che non ci si distanni, ma hanno deciso di sopra. Allora, i danni collaterali sono danni collaterali. Ah, adesso noi siamo praticamente all'ex villaggio degli elfi. Là avete passato. No, noi ci siamo già incamminati verso la strega, verso dove... Sì, avevamo detto andiamo e poi era finita la sessione. Abbiamo la piccina e... Abbiamo esatto, lasciato i bambini ai corvi per farseli mangiare. Esatto. Esattamente. Importante che io noi partiamo per il sud. Non mi ricordo però il discorso delle strade, cioè se conviene, tanto vale passare anche dai Tuscio, non ti devi dagli ex paladini, cioè dai paladini o no, non mi ricordo. Tuscio, non ti devi preoccupare perché tu sai che tutte le strade portano roba, quindi comunque andrà bene. Hai ragione, a me va benissimo. No, però volevamo andare dalla strega prima, cioè almeno io direttamente dalla strega. Sì, sì. La vostra strega non passa dai paladini perché i paladini stanno sopra al cucolo. Ah, sì, sì, è vero, adesso mi è venuto in mente. Sì, sì, sì, ok, ok, a posto. Mi sono ricordato, grazie capo. Aspetta che vi faccio vedere. Dai nostri telespettatori, cosa stavamo facendo? Guardando, degli annunci, via. Della sigla. Dobbiamo fare degli annunci, abbiamo la sezione pubblica. La diretta sta andando bene, vero? Non ci sono problemi. Mi sembra valido. Questa è la strada dove avete lasciato i bambini al Martico, e giù da qua c'era il bivio che vi porta a dove una volta sorgeva la città di Berez, che voi vi ricordate benissimo che fine ha fatto. Hanno ucciso la reincarnazione di Irina ed è stata sommersa. Perfetto, scusate. È stata sommersa dalla strada che ha ucciso tutto. E allora sono dei gran stronzi perché tutte le reincarnazioni di Irina vengono uccise tipo dal padre, dal fratello. Sì, è vero, è una cosa abbastanza. Anche se dal paradiso non era la reincarnazione di Irina, però vogliamo ucciderla almeno una. Perché tu mi insegni che la morte è una e una sola liberazione. È soltanto il principio. Ma c'è morte e morte, quella che do io è una liberazione. Per te però allora uccidi Irina e mettiamo fine a questa storia. Ma in realtà se non ci fosse, vedi quello in alto a sinistra, ecco, diciamo che se non ci fosse stato lui poteva essere una delle opzioni. Se non ci fosse stato lui Irina sarebbe stata consegnata a strada tipo 30 di fa giorno 1. Venga, col bel ciocco sulla testa. A lei? E ora staremo facendo un altro gioco. Sì, staremo dominando la Barovia e saremo tutti a livello più alto. Ognuno di noi sarebbe diventato tipo il signore di una parte della Barovia sotto gli ordini di Strand. Poi a un certo punto ci saremmo coalizzati, avremmo deposto il tiranno. Mi viene a dire una cosa, non è mai troppo tardi. E poi ti svegli tutto sudato nella tua cripta dove ti arrivi. Va bene. La strada che portava alla città di Berez è completamente andata in rovina e l'intero percorso attraversa praticamente un terreno paludoso e malsano. Ovviamente la nebbia onnipresente non rende le cose più facili, e a questo si aggiungono i fetori della palude e queste nuvole di insetti Che bel posto da Barovia. che mentre camminate vi torturano, non dandovi pace, punzecchiandovi e infastidendovi. Vabbè, Ferrara. Sì, esatto, non vedo tanta differenza. Hellish Rebuke. Esatto. Ma io? Oh, bravo, Matt. Vardistran, tu cammini consolato dal fatto che hai guadagnato un'inspiration la volta scorsa. Non mi ricordo per quale motivo. Mi sa che ce l'avevo già. Comunque, Mi grazie. Però devo sottolineare una cosa, che io non cammino perché sono addosso di dell'alce. Esatto, bravo. L'alce Ah, che per il la... resto andiamo ovviamente completamente a piedi, anche perché la strada immagino che Sì, sia non c'è dissestata, modo di diciamo. passare con altri mezzi terrestri, a meno che non abbiate Andiamo cantando. un Meno ogatra. male non faccio dei cori. È vero. Forse l'unica era farsi portare lì dai corvi. Tuttavia, spiace. No, I ma corvi loro meglio tuttavia. portameli. Erano impegnati a fare la. Beh, infatti, infatti. Ah, e in Devono tutto questo io fare probabilmente sono il licantropo. Però vabbè. Giusto. Vabbè, i corvi erano impegnati ancora col trasloco, oltre che con i bambini. Vabbè, però tu ce l'hai detto comunque, quindi stiamo attenti se dovesse venire la luna piena. Io ho detto che sono stato ferito, vi ho detto che sono stato ferito dai licantropi, da un In umanaro, quello realtà noi che poi ho ucciso. abbiamo traseduto molto sulla cosa, non ce ne è fregato Beh, perché è in realtà un topos anche della mia avventura, quindi forse abbiamo detto lo cattano ci farà fare una cosa uguale. un cazzo. Ma non dipende da me. Bene. Prima o poi ci sarà la luna piena. Però dopo torno dal branco di lupi e impongo la mia autorità, finalmente. Ma tu, cioè, il licantropo deve vedere bene la luna direttamente, no? Qui c'è sempre la nebbia, risolto il problema. Esatto, è vero. Magari c'è già stata, Giulio. Chi lo Spiace. sa come funziona? Non direi visto che tutti gli altri si trasformano. Spiaccione. Ah, Beh, ma tu non hai la giusto. certezza. Ma Dettagli. dai, ma questo è Esatto, non ridicolo. sai se sei infetto. No, io non lo so. Cioè, Atanas non lo sa. Io Giulio sì, perché ho tirato di merda con i tiri. Ehi. Più di un tiro sulla maledizione. Bene. Potrebbe essere un buon motivo per ucciderlo. Chi? Nel Giulio? caso. Beh, ti libereresti del tuo nemico numero Non è più nemico Giulio. Sono No, buonissimo, no, in è realtà è Vardistan. questo è, no, in realtà questo è importante perché in realtà io Giulio tollero molti suoi atteggiamenti, cioè alcuni cerco di evitare di vederli. Stai A parlando di Giulio? volte vale franchezza, così Esatto. a volte cerco, no, a volte cerco di evitare di vederli, altri comunque io li accetto per due motivi. Uno, perché comunque questo è un posto oscuro, cioè comunque il mio è un paladino abbastanza oscuro, quindi cioè Va bene, è nel Batman, è a male suo e agio. no, nel male, nell'oscurità, comunque avere qualcuno che non si fa scrupoli può essere un mezzo per raggiungere la Ma luce. li accetti o li tolleri? No, no, lo accetto. Protesta o E proposta? inoltre considera che io e Giulio in realtà siamo amici più Sì, in realtà noi ci conosciamo noi da ci conosciamo da prima prima di dell'avventura venire insieme. in Barovia. E quindi in realtà Anch'io io. non No, voglio. e quindi in realtà io. Beh, un po' sono ingenuo e non mi accorgo che lui sia completamente fuori di testa. Dall'altro, voglio sperare che in realtà lui, tramite magari anche una missione di questo tipo, riesca a trovare la sua redenzione. Però Vez, comunque l'omicidio dei cavalli a sangue freddo sgozzati in mezzo alla strada dava un'idea. Sì, ma quello magari doveva dare un Era po'. un piccolo Ma segnale quello d'allarme. magari poteva dare più fastidio a te che sei un druido. Poi in realtà che sei quel primo che In dice, realtà forse è ma qua stata ci una sono degli delle. insetti, uccidiamoli tutti. No. Dove In sono realtà è i stata una delle discorso? Parlo cose più del sensate, erano segnale di cavalli. instabilità. Cioè, Grazie. di tutte le gesta, di tutte le giuliate che ha fatto, quella era la più sensata. Ma in realtà Ha secondo ucciso i me. cavalli di Strad. Va bene. Dai, il figlio del borgomastro è la peggiore, beh, quella non Fluido. si discute. Tira un di 20. Non c'eravate, non sapete cosa è Cari successo. amici che ci seguite, seguaci di Tycoons and Dragons e del nostro podcast di RipGDR, secondo voi qual è stata la bravata più nonsense di Giulio della maledizione di carta? Scrivetecelo nei commenti e fatecelo Beh, sapere. comunque dovremmo fare la pagina Instagram di Tycoons and Dragons e fare tipo i sondaggi, i quiz, queste cose qui. Carino. Sì, però poi sì, la cosa triste in realtà è che non è tanto che non ci seguirebbe nessuno, ma il fatto che nemmeno voi fareste il quiz. Perché dovremmo farlo se non noi noi che facciamo i quiz, Questo è dai. spam, ho segnalato per spam, io stavo giocando a LOL. Non è vero, invece con Instagram potremmo anche fare tipo le varie foto quando andiamo al giapponese, cioè tra 2 anni, le varie cose così, sarebbe carino. In un'altra vita, Comunque, vabbè, ci possiamo guardare perché in teoria può essere collegabile, non so in che Pac, modo. tira. Druido, diventi 20. una. Davvero? Non di, No. sì, gli hai detto di Ah, di 20 in e lui ha senso detto dato. 20. Nel senso di divenire. E poi sempre Diventi un altri. bambino vero. Allora, In 20. teoria quesadillas e poi questo riso è un po' ridicolo, non lo 16 prenderò mai di più. dado, catta. Perfetto. Era un di 12 più un di 8. Un di 12 più un di 8. Ma l'aveva fatto lui anche l'altra volta. 16, di nuovo, 9, 7. Ok. Trovi un'altra gabbia con i canarini dentro. Perfetto. Gabbia non mi ricordo, lo lancio appena Allora. acqua o ce l'ho dietro ancora? No, No, l'hai data a Frank, mi sa. no, credo sia esploso. L'avevo Ma lanciato fuori gli si è uccelli per farlo. esplosa. L'avevo fatto Cosa? io. Ah, sì, è vero, avevi obbligato gli Ah, uccelli che volevano stare dentro la gabbia. no, è vero, è che lui ha detto che tornavano dentro. Sì, Madonna. gli uccelli che avevi trovato non Non sapete cosa c'è? volevano lasciare la gabbia. Trasformo gli uccelli Sì. in un gorilla gigante. Finché sono in vita almeno. Allora, noti due cose. La prima, delle tracce per terra. Di cosa? Nella fanghiglia, questa cosa ti colpisce particolarmente, ma col senno di poi riesci a interpretare chiaramente questa cosa, ovvero delle tracce di lupo che da un certo punto in avanti diventano orme umane. Ah. Ci saremmo La preoccupati mia del domanda, contrario. ma noi Esatto. abbiamo riposato in Voi tutto avete questo? riposato la Beh, io no. notte, Cioè, io sì, tu ma non l'ho no. recuperato. Non l'ho Esatto. recuperato. Però Ah, c'era. Ci sono i maledetti. non è passata un'altra notte, Ok. vero, Katta? Però non è passata un'altra notte. No. Survival, parte. 20, 12 di dado, più 5-6 però. Comunque, non ce l'ho sotto mano. va bene. Sì, dovrei Allora. avere 6, però aspetta. Survival e sopravvivenza, 6, quindi 18 totale. Perfetto. Queste orme, no, ponti che si appartengono almeno a 3 creature e capisci che sono state impresse diversi giorni fa, quindi non vi dovrebbero preoccupare. Quindi non è Giulio. Non è Giulio. Noti una seconda cosa invece più preoccupante, che in Giulio. questa in E quelle questa ombre? palude tutto ciò che non è sentiero è terreno È paludo, vero? difficoltoso, è paludoso. Ok. In più queste nuvoli, questi sciami di insetti sono estremamente aggressivi e finché vi muovete e continuate a camminare vi danno fastidio e va bene. Capisci che Bellissimo. se vi doveste fermare, allora, dato che insomma, sai che la loro natura è quella di insomma, o si cibano di carcasse o ci depongono dentro le uova, o comunque cercano in continuazione del cibo, che impedirebbero a chiunque diciamo, all'aperto di potersi riposare, perché non potresti chiudere gli occhi che subito arriverebbero a punzecchiare. Fastidiosi. Bene. Proseguite ancora un po' e la nebbia comincia a farsi più fitta. Garrosh, tirami un D20. 9. Ok. È Proseguite tardi ancora per per andare alla un'ora. E torre in questo tempo, un po' di merda. perché devi andare alla torre? Che torre soprattutto? Quella dei risultati. Ah, in linea d'aria in realtà ci sta passando relativamente vicino, se ti ricordi la Solo mappa, che se vuoi te la dobbiamo faccio rivedere. scalare una parete. Esatto. Magari qualcuno che voi vola ce la può fare in maniera molto agile, però di Qualcuno che fatto cammina sulle pareti? voi state andando da punto P a punto O uno che si trasforma in un lupo mannaro. Oh. motivo. 4,5 sono i giorni di cammino. Sono i giorni, esatto, Quindi gli anni. non dormire per 4 giorni e mezzo potrebbe essere complicato. No, sono le ore. Il Sono le? punto Q, ore. No, sono ore, Ah, beh, ma allora che qual è il problema? E vedete che il punto Q in linea d'aria è relativamente vicino, solo che ci sono due lineette di Ma perché altitudine. adesso è notte? E adesso è mattino, voi siete usciti dalla città la mattina, avete dato i bambini e state andando a sud. Beh, quindi Dai, lui in dai, la teoria. prossima la puoi azzeccare. No, però non capisco il problema. Cioè, capisco il problema futuro, ma intanto adesso non c'è un No, è problema. che Adesso Arci capisci perché non si fa troppi problemi a girare con me. Vedo un cadavere, diciamo, vabbè, Questo era ragioni. per rispondere a Sfortuna che chiedeva se era tardi per andare al castello. No, è mai Sì, ma tardi era per più una andare battuta che diceva il mio personaggio. al castello. Però è un'osservazione interessante, Ma la effettivamente. vediamo, però. No, Quello Marco, tu che fagli lo le battute vediamo è per troppo trollare lontano. e con il master sono delle osservazioni interessanti. Dici le tue azioni che fai nei turni, sono delle cazzate invece. Esatto. Cosa dici, Garrosh? Scusa. Se la vediamo, cioè se No, vediamo questo la edificio. nebbia vi impedisce di vedere oltre 100 piedi di fronte in ogni Ok, direzione. veramente. Però tu mi fai un perception. Tu chi? Garrosh. Noi Bam! Sfortuna, 1 più 3, diciamo. 4. Ok. Continuate Tranquilli, tranquillamente. rega, non c'è niente, andiamo. Proseguite per Io. un'altra oretta e va a pack in avanti. Scusami, Marci. Io ho una percezione passiva molto alta, anche fin di nebbia, quindi Catta, se devo se ci vuoi fare tirargli un'imboscata, faccela, cioè non fare questi trucchetti beceri di farti dare Vabbè, scemo per direi che tutto il abbiamo tutti gruppo. una percezione passiva più alta di 4, quindi. Lo deciderà il Tiro fatto questo. sensibilitas. Esatto. Esatto. Racer, fammelo tu un perception. Ancora questa storia, pensate che io abbia perception alto? Sì, Catta, No, perché è non la un fai tirare a me che sono l'unico che ce l'ha arcane trickster. alta? Sono a Perché? 18. Uno Visto? ciascuno, Bravo. cazzo. Il tuo l'hai fatto prima, adesso sta agli altri. Vuoi fare tutto tu? Non ho capito. No, ma che minchia di ragionamento è? Se gli altri sono ciechi, io sono l'unico con perception, non è che se ho tirato già prima sopravvivenza non vedo una minchia dopo. Ricordi, ciechi e sordi. È una questione di, come si dice, casualità. Ogni tanto una cosa può essere notata uno perché magari è in un posto giusto al momento giusto, in quel determinato momento. Poi tira Sì, guarda. 4 e sfiga. Bene, 18. senti come il rumore di una battaglia. Ci Sento il siete? rumore di una battaglia. Ci siete in In realtà è mezzo, Giulio che tira tirate fuori i dadi. iniziativa. Sorge un sole rosso. Stanotte sto versando del sangue. Il rumore dei dadi che vengono tirati fuori da un sacchettino di plastica. Fatto. Ma nella nebbia. L'aria ti porta questi suoni di il clangore del metallo, le urla di dolore e di incitamento alla battaglia. Di fronte a te vedi la nebbia prendere la forma di un uomo, di un soldato, e ha un elmo con due lunghe corna e una picca. Basta, è Lo antistorica sta cosa degli elmi con le corna. dei vichinghi, ma qualcun altro li avrà avuti nella storia. Ma in D&D Comunque, ce li hanno. esatto, questi ce li hanno. vedi che assume la posizione protendendo la picca in avanti come per preparandosi a ricevere una carica. E dalla nebbia esce questo cavaliere, anch'esso fatto di nebbia, in armatura, che si schianta contro di lui. La picca trapassa il cavallo e il cavaliere cadendo cade addosso al picchiere e cominciano a lottare per terra. Ma sta cosa vede solo Reis. Dopo che il cavallo spunta dalla nebbia lo vedete chiaramente tutti. Ah, Però ecco. lui Ma è fanno quello che ha notato. rumore come Sì, se fossero reali. sentite il rumore, ma vedete che sono fatti di nebbia. E dopo che cadono a terra lottando, si dissolvono e i rumori continuano in lontananza. Ah, quindi si sono fatti di nebbia. Si sono Esatto. fatti di nebbia. Io vorrei tirare un Puntato molto verosimile. Religion Ok. per capire se magari qualche rituale, qualche. Metti che evocano un verme gigante, stai pensando. O magari comunque qualcosa legato anche all'ordine paladino, alla fine, sempre con religio dovrei poter capire. Tuttavia, faccio 10, quindi boh. Beh, intuisci che sono gli spiriti di quelli che combatterono le guerre del passato che sono ancora qui, che si danno battaglia. E ci possono fare del male? Non diresti. Ah, ok. Anche perché vedete che sono incorporei. Non Sono. diresti mentre una picca ti trafigge. Esatto. Quindi. Lasciamo riposare, tra molte virgolette, i morti. Proseguiamo oltre. Questa non è la nostra battaglia. Una battaglia Bene. già fatta in passato. Ok, prosegui, mi tiri un D20, Lex. Per aver voluto evitare la battaglia del passato. Ed Eccone è. uno del presente. E cosa poteva essere se non 20? 20, vai. 20 No, ne sto tirando di cavalieri del 12, devo passato. tirare. Ah, con 20 di solito arrivano gli scontri. Eh sì. E Forse non l'hai capito. infatti è il D20 sbagliato, non è un tiro di perception o altre cose. Non è il momento giusto del posto giusto, Esatto, no? bravo. Va bene, cosa devo tirare? Un D12? Devi tirare. Ce l'ho Più quella 12 è un intenzione. D8. Esatto, un D12 e un D8. 7 con il Con D12 D12 rimane 9. e 7, quindi il mio numero sempre Esatto, con il D8. bravo. 14. Ah sì, se la somma sì. Hai Quello non è più il mio totalizzato numero. 14 punti. Wow. Quattordici. Molto bene. Minchia. Cosa? Quattordici. Allora, 14 draghi? no. Mannari? 14 vermi giganti, adesso dai, facciamo. 14 strad. Quindi, aspetta, tutte le strade portano a Roma. Ah! Come si muta col destro? No, Sì, com'è che si esatto. no, com'è che si butta Destro. fuori? Sì, Ci ha avete liberato un ed è c'è adesso un in diretta merito che così. si libera un posto per la campagna di Strad. Chi vuole È già stato offerto in entrare? realtà quel posto. Ah sì. Ok, eccolo qua. Avevo preso il manuale, Da parte di stupido me. Sceo in realtà. In che senso? Hai offerto già a qualcuno di partecipare. Perfetto. Ma se metto le mie immagini Ma su Discord, quando mi tolgo, quando viene viene, l'immagine del profilo. cioè l'immagine, viene al posto della pallina o mi occupa tutto lo spazio? È molto importante. Dai, la Va domanda. bene. Tutto quella Diventa la il domanda. tuo colore, il tuo riquadro. Ma tu hai già Sarà tutto il tuo l'immagine in riquadro. teoria e non appare la tua immagine, quindi No, no, lo considera so. Perché adesso ci che sono sei io in video. tipo l'unico che vede dal cellulare, quindi non sappiamo esattamente cosa vedi. Non è detto che funzioni allo stesso modo. Cosa Comunque, vedono i tuoi occhi da palestrato? esatto, i tuoi occhi da palestrato Esatto. vedono quattro figure uscire dalla nebbia. Queste sono reali. Sono quattro energumeni ricoperti di pelli e di ramoscelli. E di... Che incocco la freccia. È una battaglia del passato. Potrebbe, okay. Lo scoprirete. Intanto loro vi... sono a 60 piedi da voi. Ma cosa sono? Lo sappiamo. Li avete già incontrati di simili. Sono i berserker delle montagne. Con ogni campagna che si è inventata a Roma. Vi dicono siamo avanzati degli hanno detto esatto. Stanno cercando un Aristi. Esatto. Vabbè, tirate allora, datemi un'iniziativa, dai. No, diretto l'iniziativa, neanche cercare di parlare. 12. Sì, loro vi caricano appena di 14 io. Sfortuna, se tu vuoi provare a grande parlare, puoi provarci. Quanti sono, Katta? 3 per me. 4 cavalieri. 4 berserker. 17. 4 berserker a cavallo di cavalieri. No, è a cavallo di altri berserker, quindi sono po'. Vuoi chiedermi altre cose? 13. Non mi ricordo cosa avevamo detto dell'alce. Cosa avevamo detto dell'alce? Che in teoria ha una sua iniziativa, ma io posso allora, decidere quando farla. Però dimmi tu come preferisci, perché a me va bene anche l'alce è una cavalcatura particolare, perché siete in contatto telepatico. Dato che è il tuo destriero evocato, e quindi tu puoi farla agire in due modi diversi: uno che è quello da destriero, diciamo, in cui tu hai il controllo, ma questo vuol dire che lei può fare solo le azioni di movimento e di disingaggio, oppure come cavalcatura autonoma, e questo le permetterebbe anche di attaccare. In però come caso, sopra? Sì, con te sopra, ma in quel caso avrebbe una sua iniziativa. Beh, in quel caso solo un imbecille la userebbe per muoversi. Esatto. Quindi io posso tirare l'iniziativa. Con te la tua iniziativa 12. Quindi dammi l'iniziativa dell'alce. Cioè, come vuoi, eh. Per me può anche avere la mia stessa iniziativa, basta che possa attaccare. Per attaccare deve agire... Verso, è possibile che capisci sempre il 50% di quello che dice Katta. No, effettivamente questa è una cosa abbastanza complicata. 10. Stabilire. Su alce. No, nel senso che quello era una comodità di Katta, cioè Katta è comunque il master, quindi può decidere di trascendere dalle regole. No, è Giulio il master, lo sappiamo. Già l'ha fatta con l'expe ai livelli, sta cosa di trascendere dalle regole. Non c'è pericolo, siamo penultimo e ultimo, quindi siamo a posto. Esatto. Sì, effettivamente è vero. Anche perché voi avete tirato molto bene. E niente, vado a smazzuolare. Vado in ira e carico, essendo il barbo. Assolutamente sì. 10. Allora, Garrosh, prima cosa. E quanto sono da noi? Poco. Sono a 60 piedi. Quindi tu Garrosh posso arrivare e basta. Pensavo fossero più vicini. Allora inoltre, non posso scusami, siete in mezzo al terreno accidentato. Ma chi se ne frega? Io posso camminare anche sui muri. Ma non, non in mezzo al fango con la melma che ti arriva alle ginocchia. Quindi dimezzate il vostro movimento. Allora faccio 35 e mi fermo. Ok. Poi, però vado comunque in ira. Sì, sì. No, ma stai qua. Però posso andare in ira adesso, però non attacco... Non ha molto senso. Teoria, se... perché se loro mi attaccano di mezzo i danni, però non sono sicuro. No, non ho detto che non abbia senso per te, ho detto che non ha senso a livello di gioco. Se ti attaccano la mantieni, se non ti attaccano e tu non attacchi la perdi. Allora non vado in ira questo turno. Ah, quindi sì, anche potenzialmente anche svantaggioso. Qua. Palla di fuoco. No, e lancio il dardino Figato. Yes. Faccio 11 di danno. Come mi sembrano sti cosi? Sono grossi, aggressivi, cattivi? I berserk sono muscolosi, con la bava alla bocca, in uno stato di rabbia permanente e con delle grosse asce che mulinano in maniera poderosa e altrettanto straziata. Sono di razza umana, no? Sì, sono umani. Io cerco di intimidirli sbavando più di loro. Faccio 17, catta. Mi ficco due dita in gola e inizio a vomitare. Sono due di 8. Oddio, però. Che schifo, non lo attacchiamolo. Sì. Faccio 11 danni. Ok. Tra l'altro lui è un nano, quindi gli si ferma e è tutto nella barba. Che schifo. La... No, sarebbe un getto potente. Ah, dici che è tipo... Tipo esorcista, esatto. Da prendere da bere. Le fiamme che lanci lo colpiscono e lui è ancora più gasato dal fervore della battaglia. E questo era fatto, perché è rimasto dove era, perché non mi ha detto altro. Bene, sfortuna. Ok, allora, la situazione è che loro sono 70 piedi, qualcuno di noi si è avvicinato particolarmente. Di 35 Garrosh. Palla di fuoco. Allora faccio... Eldritch Blast, cazzo. Due Eldritch Blast, quello ferito. Bravo, così si gioca in Warlock. 10-18. Il 18 colpisce, il 10 no. 18 fa... Nove danni. Ok. E uso una Bardic Inspiration sul nano che è caricato, dicendo: vai, bravo, distragli mentre noi ce ne andiamo. E mi muovo indietro di 15 piedi. Io distrae. Vai, Garrosh. Datemi una G, datemi una. Io distrae. Cos'è, vi togliete l'armatura, avete le magliette del mio nome. Io carne da bacello, sì. Vai, Atanas o Race, siete pari. Avete fatto 12. Mi vai sa pure. Che aveva più destrezza Race. Allora vai, Race. Potete scegliere voi, Atanas, di regolamento. Ho qualcosa intorno? Sono cespugli, alberi, acquitrini. Allora io tiro una balestrata e poi mi nascondo. Se c'è qualcuno in ghiacciato. Se è come la zona di Ferrara, ti puoi nascondere dietro una zanzara. C'è qualcuno ingaggiato? Sì. No, ancora, o in una rotonda improbabile. Vabbè, allora tiro solo una freccia e faccio... Il nano ha ancora a metà strada che sta, come si dice, camminando nel fango quasi, che arriva quasi alla vita. Perché... Faccio 23. Trucco, è già finito. Ma è abbastanza ispirato. Sono 6 danni. No. Ok. Poi mi nascondo. Certo. Come ti nascondi? E il mio tiro per nascondermi è... È un arcane trickster. 24. Sto sperando che mi dicesse Sal. 24. Arcane. Perché sono molto carino. Arcane trickster. Avete visto come vedo lo schermo? No. Sì. Ti è nascosto così bene che siete spariti tutti e andate via. Rimane solo Garro. Allora, ci fare un po' di pedicure. Hanno tutti colpito lo stesso? Che schifo. magari fa ordine. Ripetimi qualità. Per il calzino. 6. Cioè, perché il pedicure col calzino è difficile da fare. Ho capito, me lo appoggi davanti alla telecamera, che bello. Mica ci passa l'odore dalla telecamera, cioè, meno male. Adesso fan base apprezzerebbe. Hai ragione, adesso lo metto in primo piano. È vero, nice. Una volta mi arriva anche un messaggio. Eccolo il compagno animale di Archie. Ti ricordi, Giulio? E infatti si muove anche. come si muove col primo dado ho fatto 19 di dado, quindi critico. Cos'è che ha detto Yak? È anche su non è solo su corpo a corpo vero il critico potenziato. Yuck. Adesso controllo, non l'ho visto commenti. Grande Yak, io non vedo commenti. Ah, cos'è che ha detto? Non ho capito. Ho capito che avessi detto qualcosa su Yak. No, prima non aveva commentato. No, non vedo commenti, infatti. Non ci sono Giovanni commenti neanche. No, no, infatti già ci aveva abbandonato l'ultima. Forse abbiamo perso il suo applauso. Noia, no. Male, male. Molto male. Ma quelle delle no, segue... quelle le prendi per mangiarle? Eh sì, guarda lì. Certo. Gustose. Cioè, weapon attack. È anche il primo piano. Con un'arma. Quindi con il primo faccio il critico e faccio ben... Guardatelo che se sta per... Ma adesso le accumulo e le mangio dopo, così non mi... Non ho sentito. La macedonia. Ma se le metti in piede da lana te le smangio. Hai attivato il filtro? Sì. 10. O due bari, troppe bari. È ancora vivo. Perché ha troppe... Sì, è ancora vivo. Eccola! Croccante questa, freccia. Era croccante. Faccio 15 più... Viscida, ma saporita. 5-20. Buono, buono. Bene, avete visto Arci che si mangia le... E qui 20 belle, la faccio... Ah no, 20 per colpire. 8 danni. Piede, piede sinistro okay. Da... 8 danni. Ok, ok. Bene. È un po' ferito, ma è ancora in piedi ed è molto carico per menare le mani. Sono un po' ferito. No, è un bel po' ferito rispetto agli altri tre che non avete ancora scalfito. Però questo lo incita solo di più. Scatta, quello lì che ho focussato io è lo stesso che stanno attaccando. È lo stesso che state attaccando voi, sì. Quanta vita ha già perso in totale? Ah, parecchia. Io ho tolto 18. Marco gli ha tolto 9. Tu gli hai tolto non so quanto. Sala, io 11. Ma era Salla? No, è Atanas ha fatto l'arche. Gli abbiamo tolto 44. Tu ti muovi, Atanas, o rimani? Rega, abbiamo un DPS che fa schifo al cazzo. E... loro sono a 60, no? Sì. No, rimango lì. Se non è ingaggiato, io faccio pochi danni. Allora, infatti, io sto ancora lanciando a distanza. Non divento... Starebbe al tuo alce, Vardistran. Giusto, tu hai fatto. Sì, però loro più. Sono ancora distanti, no? Loro sono ancora a 60 piedi, non hanno ancora iniziato. Loro sono a 60 piedi. Perfetto. E allora. Aspettiamo che avanzino. Ok. Allora loro avanzano. Io posso aspettare, no? Posso ritardare? Certo. Puoi preparare un'azione. Posso preparare un'azione. Ma non puoi colpirli a distanza? No? Beh, l'alce fa un po' fatica a lanciare il palco di corn. Ah, poi certo, sai, potrebbe comunque essere utile il corpo a corpo. No, però il discorso è l'alce subisce comunque il terreno incidentato, vero? Assolutamente. Assolutamente, loro sono a 60 e mi danno l'idea, quindi in teoria loro dovrebbero fare 15 con un'azione. Beh, con un'azione loro dovrebbero fare 15, quindi io potrei avanzare. Se avanzassi tutto sarebbero 25, ma loro non sarebbero troppo vicini. Quindi direi che per il momento l'alce questo turno passa, però è molto rigoglioso. Se no ritarda l'azione, cioè decidi non tipo... Non posso ritardare, posso solo fare... Prepararla, sì, prepararla. Ma non ha senso. Magari tipo avanzi se... Ma non ha senso per me avanzare, perché non riesco a fare la carica e non riesco a... E mi avvicinerei sì, troppo per turno, essere colpito. Sì, sì, infatti. Sì, l'ho passato. Spiegavo a Sceo che... Sì, sono io che ho chiesto una cosa. Quindi sta loro. Stai zitto, lo Sceo. Cioè, ha passato come alce, come Vardister, prima o poi qualcosa. Ma non puoi dare i piedi alla rana che ti mangiucchia. Fai prima. Ma sai come sono le rane toro? Gli dai un dito e ti prendono il piede. No, ma soprattutto poi gli ruberebbe tutta quella prelibatezza. Allora, Sceo, tu sei a 25 da loro. Esatto. Allora, quindi il tizio che avete massacrato dice due parole nella loro lingua ai suoi compagni che cominciano ad avanzare nel fango. Cosa gli dirà mai, secondo te, la lingua del posto? Non lo so cosa si dice. Polli. Non gliele abbiamo ancora tolte le lingue qua, purtroppo. No, lui diceva quale parola in pakistano. O pakistano ferrarese, perché è una No, no, alla diranno base. i pachi parlano un po' così. Allora, i primi tre praticamente si usano il loro movimento per mettersi a intervalli regolari tra te e quello ferito. Quindi vedi quello ferito che lancia un urlo e praticamente comincia a saltare sulle schiene dei suoi compagni per arrivare a saltarti addosso. Megazord. Chiaramente farà. No, Cos'è? non è Megazord, Sul serio? è tipo la catapulta Figo. infernale dei gemelli. Sì, se l'avessimo fatto noi sarebbero morti affogati quelli che No, si mettono sulla infatti. schiena e l'altro sarebbe inciampato. Infatti adesso fa una prova di athletics per non cadere Ma rovinosamente. ironicamente un 20. Ah, devo anche tirarlo? Ma no, basta No. dire che io vinco. Bravo, no, Allora, tiriamo invece. questo dado a sei facce, tutte vinco. Dimmi che cade ai miei Invece piedi, prego. alla fine non riesce ad arrivare come vorrebbe, per cui riesce solo ad accennarti un colpo mentre fa un tuffo nel fango con svantaggio. Quant'è la tua classe armatura? 19. Non può fallire. Adesso ho fatto un gran tiro. Eccola, Questo con è svantaggio. incredibile. Con Con svantaggio, svantaggio. Con svantaggio Non, 16. avendo fallito la prova, non può Vinco. semplicemente fallire. No, no, Beth, vinco. No, Non perché non l'ha solo. fallita di poco. È tipo tiro di Ah, ci dado. sta, dai. Tuttavia, Ah, se. beh, ci sta. Se l'ha fallita di poco, non è atterrato in piedi, ma è atterrato male. Tira. Quindi con Quindi svantaggio. In realtà, continua dai, esatto. stavolta ci E quindi ti sta, dai. fa solo 12 danni. Hai La faccia tirato bene rubiera. anche coi danni, mi è proprio sfiga. Cioè, mi Porca dispiace, troia. ci E vedo non sono in benissimo. ira, E non fanculo. sei. Posso provare a fare parole Accendi tagliente? gli afatti al naso. Sì, ma. esatto, l'unico con cui ci poteva arrivare. E tu Anch'io puoi sono un fare nano. la tua reazione per fare parole taglienti, sì. Faccio un parole taglienti. Comunque, questa è la classica azione master usa vinco, è super efficace. Sì, davvero. La E cosa bella è che è dico. la cosa tenera che anche fa ancora finta di No, tirare. ho tirato, davvero. Lo giuro, lo No, giuro. fatela anche voi adesso Solo la che mossa di saltare. ho tirato veramente alto. Vi conviene che tiri alto adesso piuttosto C'è che il dopo. bot del master che è tipo vinco, vinco, vinco. Ah, secondo ho tirato male, solo tre vinco. Su Raga, tre. fatela anche voi la mossa di saltare Ma ogni è settimana. il bot del master è successo, fallimento e tu selezioni quale vuoi. Clicchi. Successo. È Scegli il molto pool, no, semplice da puoi scrivere. tirare il pool di successi o fallimenti. È stata gatta No, mentre fallimento, ho successo, sbagliato a successo, tirare. successo, successo. Via, tira. Esatto. Successo, wow, oggi sto tirando da Dio, eh. Vai, No, Vardistan. se clicchi su fallimento ti dice forse volevi cliccare su successo. Io Ho guardo. usato parole taglienti, ho fatto tre. Ah, quindi risparmia 3 danni a Shea. No, poi tre al roll della città. Quindi era un 9? No, non so. Quindi era Aspetta. un Ah no, scusate, a 21. colpire. Non si sa. Ok, 21 meno 3, 19. Marco è, non può, cioè, è un vinco meno 3. Ha detto vinco. Però, cioè, vinco meno 3. Cioè, vabbè, okay, se avesse fatto 4 l'avrebbe mancato. È una vittoria meno netta, però è comunque un vinco meno qualunque numero è sempre un vinco. Esatto. Cioè, la legge matematica. È come infinito meno 2. Esatto, sì. Sì, è un po' meno infinito, ma insomma è comunque infinito. Non è vero, siete solo stati sfortunati. Cazzo, lui qua... Che ironia. Fa 8... Che ironia. Che ironia. Dado, sfortuna è stato sfortunato. Sul dado che legge ironia. Così, beh, vai. Insomma, tiro un di 6, ho fatto 3, io non sono stato sfortunato. Che ironia. Lui... Tiro 5 di 20 e faccio la somma. Catta, se fa 8 lo legge così il dado, lo sapete. Chiaro. Non si è visto. Va bene, guarda strano. Ah, io guardo l'alce e basito su, ma cosa fai, non stai ferma? Vabbè, proprio devo fare questo e sparo una freccia incandescente. Dopo di lui c'è Garrosh, che quindi potrà andare in mezzo. Ci sta lanciando una palla di fuoco intanto. Manco, avete visto che sotto sta luce sembra arancione? No. Faccio un 7 che direi che è praticamente una mega lampada bruciato. puoi tirarne due di freccia. Lo stesso dici, anche se non è, vediamo. Beh, l'altro è un 21, però colpisci. Bene. Vinco. 3 danni. Ok. Catta? Sì. Quello che ha preso 44 danni, quanto sembra che si sia messo? È molto ferito e adesso ha davanti un barbaro incazzato. Vai, Garrosh. Sì, esatto. Vai, io colpivo quello ferito, ovviamente. Sì, sì, però, quello davanti a me. Tu. Perdo. ho fatto 9. Provo l'attacco extra. 24, mannaggia. No, 20. Vabbè, di più di 20. Cosa vuol dire? Puoi aggiungere un disable. Ah, hai l'ispirazione bardica. Ti ricordo che sei in mezzo al pantano. Quindi? L'attacco bonus, quale intendi? Il secondo attacco dell'arma principale, no? Come, sì, faccio due attacchi, non posso fare quello extra del caricamento. Che cosa? Quello lo fai. Sì. Non posso fare quello extra del caricamento, quindi sì, ne faccio due, normale. Sì, sì. Ma posso aggiungere il D6 al tiro di prima? No. Sì. Quanto avevi non fatto? Avevo capito. 9. Aggiungi il D6? Aggiungo 1 e faccio 10. Fantastico. Va bene, col secondo faccio Marco, 19 di D6. Questo... per cosa generale? Regalare dei dadi a Sheo è inutile. Però col D8 faccio questo e sono 14 danni. Beh, ormai Marco è con noi da un po', comunque dovrebbe averlo capito. 14 però danni. Non ha... Errore da danni. Quindi c'è colposo in questo caso. No, ma non ha visto tutte quelle volte che qualcuno gli dava l'inspiration e lui la sprecava. Questo forse. Non c'era ancora quando perché abbiamo smesso molto tempo fa, forse. Spiegato. Morto? Non so, potrebbe essere Raf, ma non credo. Come morto? Certo, ha fatto 14 danni. Ah, no, okay. Lui ha ucciso, no, c'è Sheo, cazzo. Successo. Pensavi Sheo. No. Quel barbaro abbiamo Oddio, quel oddio. Abbiamo inflitto un sacco di danni. Oddio, cosa sta succedendo? Vabbè, dai, ho fatto 14 danni con un attacco solo. Altra vai, manca. Panque. Io lo direi Raff, ma non credo che sia Raff. Io catta tiro, direi... la solito sarà voltino. hard qualcosa, okay. Il terreno accidentato è difficult terreno. A quanto sono da me difficult Jesse? Allora il più vicino era quello che ha ucciso, che è stato ucciso adesso, 35, poi ce n'è uno 10 piedi dietro. Vabbè, poi sono risposto... 10 dovrebbe essere. Io indietreggio un pochino per essere un po' fuori dal range di carica, faccio 17 di dado più 6 23 2 di 8 9 danni. Perfetto. Vi dico, fermatevi, immonde bestie. Ti rispondono latrando e sbavando. Sfortuna. Cosa? Vediamo. Cioè, uno dice latrando e l'altro risponde sbavando. Così. Esatto. Mi muovo di lato con tutti i piedi, così non resto fermo, gli insetti non mi attaccano. Ok. E quindi non ispiro nessuno stavolta. Uso la mia azione bonus per... Marco, ma che bei turni che sono i tuoi. Cioè, non capisco, funziona benissimo ispirarmi. Uso la mia azione bonus mi per maledire uno a caso dei tre e poi tiro due Eldritch Blast con la maledizione. Okay. Su di malus a destrezza. Ok. Quindi essendo svantaggio per tutti il terreno accidentato qui è difficult terreno. Sì, sì, lo stavo guardando se poteva impedire la carica, ma no, in realtà no. Non direi. Quindi un 14 e un 8. Un 14 più 10. E fa... Ok, c'è. Tanto oramai 6.000. Quindici però. Race. C'è qualcuno ingaggiato? Sì. No. Allora mi sa che aspetto che... No, perché è morto. Puoi preparare l'azione. No, e se agiamo contemporaneamente io e Giulio non può ingaggiare lui. No, sono lontani. Vabbè, ma fanculo, io sono nascosto, non me ne frega niente. Ma quanto sono ora? Sparo con la palestra. Il più vicino a te è a 45. Ho vantaggio se ho tiro da nascosto? No, perché non sono sorpreso. Ok, allora 19. Che vantaggio ha nascondersi? Che non ti vedono banalmente, basta. E che nel primo, se nel primo turno di combattimento. Quindi non è furtivo. Quindi non è furtivo perché non hai né un alleato né vantaggio a tiro. Ah, che cazzo mi sono nascosto a fare? Non farti trovare, non farti colpire. Aspettare. Perché sei una... che è in trickster. Hai provato a dire vinco. Vabbè, sono 8 danni comunque. Bella questa è la vita. Okay. 8 danni. Invece abbiamo imparato la nuova formula per il sabato che è veni, vidi. Questo era Race che, che può rinascondersi volendo, ma mi cambia poco. Mi allontano. Ti allontani, ok. Di quanto? Lo massimo movimento che posso fare. 15. È un movimento normale, tipo. Sì. Dimezzato sì. Perché si è tenuto lì. Atamas. È più un dodge, però. Quindi... Ma più dash. Più dash fai faccio 30. Un altro critico. Wow. E 22. No, 19. 19 è un critico. Okay. Quindi sono... Totale... Ma tu con cosa stai tirando? Cosa stai facendo? L'arco lungo. Comunque... Ah, con l'arco. 10, 13... 15, 17 danni. Bene, bene. Lancio. Sono lontanissimi perché non sono avvicinati di niente. Com'è possibile? E quello che è arrivato è morto. Si sono fermati a me. Quindi sono tutti a 45 piedi, che è un'enormità. No, 45, 55, 65. Essere preso. 45 e 55. Quelli dietro, quelli dietro il primo. Niente, allora direi che l'alce avanza di 10 piedi. Sì, forse. Vabbè, dai, 10 piedi, sì, vada. Ok. Quindi... che vuol dire per me, che per me, che per lei vuol dire 20 piedi sostanzialmente. Ok, quindi quello dietro arriva addosso a Garrosh che lo attacca usando il suo attacco incauto. Ma Garrosh a quant'è da me? Adesso che ti sei mosso di 10, Garrosh è a 25 da te. Oh, questo volevo sentire. Ti colpisce, ma non fa un critico purtroppo. Sei andato di più. 8 danni. No, E di non è nuovo. purtroppo, è stranamente. Esatto. Ma è linguato. Sei fortunato, Quelli Sceo. dietro, che sono a 55, Sei tanto in per ira, vero, sentirmi. Sceo? Ha fatto un V come uno. Sceo, sei in ira, vero? Sceo, sono dimezzati i cazzo di danni. Sì, Sceo, ho detto rispondi, sì in tutti i modi possibili, ho detto sì rispondi, 2 volte, ho fatto così. rispondi, non si è sentito, non si è Non stavo sentito. guardando il video, però non sono sentito. Allora, non stavamo guardando, ti stavamo ascoltando, fatti capire, porca puttana, La cioè, non si può mia capire, cioè, non si capisce percezione è stata niente, oh, quella. cioè. Avevamo anche aiutato, quindi. È una roba, Allora, guarda che finisce così, eh. il video non lo stavo guardando, ma cioè, stavo ascoltando, si vede che è saltato l'audio da me. Devi No, no, togliere il anch'io fatto non che l'avete anch'io non l'ho silenziato. sentito, quindi non si è sentito No, comunque. tranquillo, Va bene, gli tranquillo. altri Comunque si due sono. usano tutto il loro movimento per arrivare a fiancheggiarti, ma non fanno in tempo ad attaccarti. A tal Bardistan. proposito, Giulio, metti una crocetta vicino a Ira, che l'avevi già scritto. Grazie. È inutile che Ce continuate ad essere n'ho così già lontani una. da me. Sì, sono due. Continua a sparare, dai. Spariamo altre frecce. Oh, ma tiro da Dio, 21. Peccato. 6 danni. Posso, ha fatto il massimo, posso tirare un altro? Sì, ma te li infliggi a te. E poi infatti l'altro, uguale a prima, uno 21 e l'altro 10. Ah no, questo 10. Potremmo 10 fare però i non max. No, prende. non prende. Vabbè, E fai il Questo era massimo di Bardistan. tiri, però sarebbe più. Vai, Garrosh, sei circondato da tre barbari grossi, muscolosi e incazzati. Uno quindi è già stato abbastanza ferito, vado Una su quello. molto E pericolosa. uno di quelli è Arch. Ovviamente sbavo molto forte, in modo che Bravo. loro siano un po' intimoriti. Che capiscano chi ha Faccio il gli capo. sputa addosso dicendo beccatevi il Covid. 25 e sono 13 danni. Il primo attacco. Solito discorso Morto. l'attacco extra non posso. Morto? Bene, vado sul secondo col secondo attacco. No, Faccio Sceo, sto 20 tentando. Beh, io sto, e vai, questo ho fatto il turno, ho fatto la, il 11 combattimento danni. Giulio. Ho fatto il Prego. combattimento Cypher. Cosa sei caduto verso uno di quegli arci cosa? Uno di quelli è Arci. Ha detto grossi, incazzati, palestrati. Ha detto uno di quelli è Esatto. Arci. Ah, ok. Ah, grazie. Ce n'è uno che ha un impacco di Pensavo argilla. ti stessi lamentando del fatto che non stavo cagando l'azione di Sceo. Patti. Beh, non Tocca sta. a te. Beh, mi piacerebbe Attacco, almeno. solito passo il tiro indietro e sfreccio il tizio a cui ho tolto 9 prima. È È morto. morto. È Quello morto. dopo, Mi dici che allora, non avanti hai seguito che prossimo. cazzo ha fatto il CEO. Infierisci, infierisci. Eh no, Avanti quello devo prossimo. prenderlo io, cazzo. Infatti. Spara al Cioè? cadavere. Aspetta che qua a quanto pare i D20 non mi superano il 6 di dado. Aspetta un attimo. Niente. Ti mando il programma che uso io. Guarda, ho cercato di... Guarda, ho Esatto. cercato di barare, dopo mi sono rotto il cazzo. Cerca il bot del master. E, comunque il primo è 6, più 6, 12 colpisco. Mancato. Riprovo con questo, poi buona. 6, niente, vai. Sfortuna. Sei Mi silenziato. scorcio. Esatto, sei silenziato. Sei silenziato, Mark. Visto che è morto il tizio con l'ex, io posso farlo saltare all'altro Sì. con un'azione bonus. Quindi prendo quello che non è ferito, mi avvicino di 15 piedi, Ma queste cazzo di tiro cuffie mi... due Eldritch Blast, 21 e 11. 21 21 colpisce. becchi, 11 no. Dai, parlo io il master. Vedi che Gli scappa ogni vedi che tanto. si siedono vicini Oh. mica per caso, 16 danno. Minchia, con un solo Eldritch Blast. Beh, un di Scusami. 10 più un di 6 più 4. Vabbè, allora dopo faccio anche io il Rich Plus, Comunque partigiano. sta foto che hai fatto, Arce, che ho messo su Facebook è perfetta. Cioè, Ci sono io che mangio come un obeso, Catta che dorme, bellissima la Catta che dorme, Catta dorme, Giulio è felice perché si sta uccidendo cose, Arci è falsissimo, Salla sta giocando a qualche videogioco. Ne non sto giocando, raga. Ma e Marco è sempre Marco, Marco è esatto, è assorto in qualche pensiero vago. E tu, Sceo, pensi, cioè, hai la classica faccia di dire: non capisco, però sorrido. Quindi è perfetto. Ma era Sceo, sembra Hannibal Lecter. Addirittura Race. No, Vezza è il migliore, però penso. Sono tutti ingaggiati. Persa? No, finalmente, cazzo. Cosa c'è, Vez? No, pensavo che si perse. Però ho fatto merda, cazzo, ho fatto 12. Mancato. Era una palla di fuoco, Arch? Atanas. Sparo su quello già ferito. Ah... 12 e per questa merda di cavo che mi tiene attaccato alle orecchie che non posso muovere, se non distruggo tutto. Mi tiene attaccato le orecchie. Stavano cuffio. 4 danni. Sì, ma è una specie di trappola. L'alce. Allora, quindi sono rimasti 2 a 55 no, quanto? Dov'è? No, sono tutti a 25 da finisce io. L'alce va in guerra, massimo della sua velocità di crociera 25. Beh, il paladino ha aspettato che fossero tutti quasi morti, poi è e questa cosa mi sembra era pura tattica, solo che voi vi siete questo era il mio combattimento Cypher. Comunque faccio notare che la cavalleria arriva sempre dopo. Arriva sul Dai, fianco di solito. Va bene, arriva l'alce e prova a colpire. Esatto. Vediamo. Questo è solo il cavallo, neanche la cavalleria. Ventello! Sei a cavallo dell'alce, l'alce va da non è il cavallo dell'alce, ma l'alce agisce per conto suo. Guarda! Ah, però cioè, si muove con lui. Ho fatto 20. Okay. A meno che Vetan si voglia buttare. È un critico, no? Sì, raddoppi tutti i dadi. Minchia, cioè non so neanche se tirarli. Tiro 6 di 6 allora. Non è un po' perché. Cioè, allora io ho il più 2 di 6. Questo lo secondo te lo raddoppio o no? Catta. Il modificatore non doppio, solo i dadi raddoppio. Non risponde alla mia. Cioè, io. No, che c'ha 2 di 6 in più di carica, immagino. No? Esatto. Tutti i dadi raddoppiano anche quelli. Ah, ok. Questo volevo sapere. Anche sul terreno incidentato, carica. Sì. Padre in fase. Aveva abbastanza movimento per farlo. Esatto. Era minimo 20. Avete chiamato minimo? È una forza. Ah, sì, che è forza. Puttana. Allora. 10. 17, 20 più 3, 23. Fa 23 danni. E poi, se è ancora vivo, che è cosa che immagino, tira un tiro sulla destrezza. Fa un tiro sulla destrezza. Al quale tu avevi dato svantaggio. Svantaggio. Sì. La CD è 13. Yeah. No, sulla forza, non sulla destrezza, scusa, sulla forza. Allora, non ho sbagliato. Perché il mio cellulare ha la batteria scarica, però dovrebbe concedermi, dovrebbe farmi arrivare alle 11:30 sereno. Fallisce, quindi è pronto. Spiace. Il 10%. Ma non puoi okay. Non puoi attaccarlo? Perché ho le, no. Allo stesso punto delle cuffie. Ho sotto carico. Togli le cuffie. No, va bene così. No, non fa ritorno. Dovrei arrivare sereno. Al massimo andrà sul computer, dai. Ma in realtà comunque, se togli le cuffie il microfono è nuovo, è l'audio per... è buono, è l'audio per lui che è un problema. No, che rischia di rientrare, no? Esatto, però è il problema. Se Col muta cellulare no, qualcuno, forse, secondo me non dovrebbe rientrarvi troppo. Non credo rientri. Se vuoi provare, prova. Andiamo un attimo a provare. Ma comunque devo attaccarlo in carica là. Non lo vuole fare, questo è il problema No, no, era una non scusa svolge. per dire che le 11 Esatto, va bene. Sì, Arci, Non hai ti preoccupare, ragione. alle 11:30 me ne vado No, anch'io. alle 11:30 devo andare via comunque, batteria o non batteria, però dico, spero di arrivarci. È vero che c'è Avengers 3, quindi 24 danni, giusto? No, stasera si flexa. 23, 23. Ok. Bene. Adesso tocca a lui che si rialza e dice: ah, come hai usato? è un E attacco quindi di deve. opportunità, se si No. No, non esiste più quella cosa. Ma scusate, facciamo una prova però, così io non mi tengo ste cancro di cuffie nelle orecchie. E Mi quindi. rientra l'audio. Rimbomba un po'. Sì, no, fa Sì. schifo. Ah, sì, Rimettile, rimettile. rientra. Sì, purtroppo sì. Quindi si vendica di quella mostruosità che gli è venuta addosso. Prima scusa, Morto? è laggato tutto per me. L'hai già Ma lui può ucciso? Ah, no, alzarsi forse senza devo attaccare anche problemi? questo. Sì, può alzarsi senza problemi. Ok. Colpisce l'altro con la tua poderosa ascia. Perché fa 20? Ha fatto 19, quindi suppongo lo colpisco. Statisticamente. 8 danni all'alcio. Non è ancora morta, però, sai. Non Statisticamente. è ancora morta. Ancora 5 punti di vita. Statisticamente. Poi gli altri due inseriscono sul barbaro. Ma non ne avevamo uccisi due? Sì, gli altri due sono tutti quelli che rimangono. Ah, sì, Cioè, ce ne sono. esatto. Quindi Quindi l'ultimo sono. inserisce sul barbaro e manca col suo attacco. Cioè, Katta va bene che vince, però. No, infatti è vero. Ti Pensavo. moltiplica gli avversari così. Era il colpo di coda. Statisticamente. Guardistra, hai vantaggio a colpire. Va bene. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Proviamoci. Allora, peccato, però è un 27. Peccato perché ho fatto 19. E quindi direi che non sprechiamo nulla. E sono 16 danni. Morto. C'è l'altro vicino? Sì. Allora attacco anche l'altro. Non ho vantaggio qui, però immagino. Sì, perché loro hanno usato il loro attacco di cauto, Ah, quindi allora spiace. Due attacchi uguali, 12 loro e hanno un vantaggio 20, 20 totale. per Penso i che ti miei fan. colpisco. Faccio vedere il mio centro, il mio druido. Bello! Aspetta. Vedi Sì, che qualcosa? figata! Minchia, Sì, è bravo! bello. Potresti Non l'ho fare fatto anche. io. Non l'ho fatto io. Chi l'ha fatto? Mia Però è bello cugina, lo stesso, anche se. però su mia commissione ho scelto io i vari Che equipaggiamenti. bello! Adesso fai fare anche gli altri. Ma Infatti, il tuo è figata. l'orso che è a terra, giusto? Comunque, in Il mio realtà questo druido è è quello di un'altra entrato. campagna. Sta zitto uguale a questo. Ma Ah, una c'è roba sempre avuto vecchia. questo È personaggio. sempre lui in una dimensione alternativa, in un universo parallelo. Beh, se Ah, vuoi. tra Man. l'altro non gioco più la stessa campagna, quindi adesso è rimasto solo un druido che è uguale a questo, ma che è Comunque, se questo. vuoi, mandaci la foto, così lo mettiamo nell'articolo eventualmente. Non ce l'aveva mandato da me. Sì, no, forse l'avevo mandata quando non era ancora colorato, Fai una però. foto decente, magari. Sì, Comunque, mi ho sa che fatto ce l'hai 20 al mandato colpire. Posso tirare i workshop. danni? Sì. Sì, me lo mando. Sono 13 danni. 13. Tedici, 13 pietre. tedici. 16 la Garo. fede. Garo. 13. Lo finisco. 18 e Ah, faccio. hai vantaggio. Ah, allora vediamo se è un criticazzo. No, 18 e faccio 13 danni. 13. Yes. E anche l'altro attacco vantaggio? Vabbè, sì, tutti e due, Sì, tutti e due. tutto. È come quello 13. che hai tu. Sì, attacco in campo. 17 di dado, colpisco e sono Una altri 10. vita in vacanza, una vita. Ok. Vai. Elimina. Ne è rimasto Tocca a me? uno. Attacco. Sarà quasi morto. Boh, sì, ne abbiamo fatto abbastanza danni. È l'ultimo Allora, invece. tipo 36 danni ne abbiamo fatto. Mm. 16 più Finiscilo, 6, Arci. 22 al colpire, 2 di Colpito. 8. 4 danni, 1-1, 1-3. Belli dadi, eh. Dopo ti passo la mia. Voilà. Sfortuna. Vabbè, faccio rimbalzare la maledizione. No, tu maledetto. Tiro 2 Eldritch Blast. 9, 17. Yes. 17 fa... Ma anche lì tiri con vantaggio, in teoria. No, solo gli attacchi in corpo a corpo con delle armi. Ah. 17 fa 17 danno. Oh, il giorno 17 no, il 20. Socio. Uccidere. No, è quasi morto, però. Quindi potrebbe ucciderlo. Race. Quasi merda. Se lo colpisco. Se lo colpisco. 18. Colpisco. Bravo. Ma con cosa colpisci tu? Botta di... Balesta. Balesta. Con le sue balestre, quante ne hai? Tipo 3? Ne ho 2. E... Ma sono a mano? Sono quelle piccole? E 20... Una è una mano e una balestra normale. Ah, sono peccato. Sono 26 danni. Il trapani e il cranio. Il loro corpo. Quanti danni hai fatto? E poi come le ricarico, scusa, 26. Prendi in prestito la figlia di Arci. Un colpo tu fai 26 danni. Quando tu spari. È furtivo. Ha fatto un furtivo. Un colpo è un furtivo per me. Ah, vabbè, cioè allora in realtà sei forte. L'unico problema che ho io è che fino a tipo 4 sessioni fa le mie armi non facevano danno a nessuno. Ah, i non morti non hanno queste cose. Come tutti noi, praticamente. E quindi io continuavo a fare una vangata di danni e nessuno li prendeva. Ok, no, però vabbè, c'ha il furtivo. No, perché boh, cioè, non si capiva bene. Però no, va bene, perfetto, meglio. Ma come non ti ricordi il mio personaggio? Vero, pensavi a fare tu. Se mi nascondo vi lamentate, se sono furtivo vi lamentate. No, non era un lamento. Troppi danni, buona, troppi però danni. Lui è un arcane trickster. Esatto, tipo da come l'avevi lanciata, tipo sembrava tipo lo so, è tipo la classe è fatta perché faccia schifo, in realtà no, non è vero. Come adesso non ti ricordi il mio pensa, io faccio comunque io faccio un wrong, cioè comunque esatto, infatti. Infatti lo pensa, capivo perché fosse così lamentoso. Che abbia nerfato i miei incantesimi. Beh, poi ti sei vendicato nerfando quelli di più. Allora, esatto. I loro corpi cadono nel fango. In breve tempo orde di insetti cominciano a insecchiarne, a mangiarne la carne. Okay. E... Cosa? Ci riposiamo. Va bene. No, magari... ma avevano, ti chiedo se avevano simboli, cose particolari o meno. È vero, però Katta, se non ci siamo tipo 5 minuti lì un attimo, gli stati ci attaccano o ci lasciano in pace, visto che ci sono no, tanto stanno divorando i cadaveri. Adesso quelli che sono appunto nella vostra zona vengono attirati dai corpi. Chiaramente più si ammassano gli intorno, più ce ne sono che svolazzano. Quindi meglio che ce ne andiamo il prima possibile. Ce ne sono Marco, ancora di fuoco. Inoltre i cadaveri potrebbero attirare cose ben più grosse degli insetti. Posso fare un perception senza avvicinarmi per vedere se avevano dettagli? Puoi esaminare i loro corpi. Noti, sì. Avvicinarmi, li guardo. Sì, puoi esaminare i loro corpi. Mm-hmm. In che modo io ti dirò che cosa tirare. Ok, semplicemente guardo se armi, esatto, le loro armi o un verme gigante scritto dai simboli. Ok. Cioè ho dei tatuaggi o delle cose, cioè dei simboli, certo. Va bene, allora guardo e tu. Va bene, fammi un perception. 10. Ok. No, con vantaggio? No, non vedo per quale motivo. Ma non ci sono cose troppo, come dire, dei dettagli troppo fini da osservare, o comunque tu non li hai, se c'erano non li hai visti, ma noti una cosa abbastanza che è abbastanza chiara, cioè che il loro aspetto è un po' diverso rispetto ai berserker che avete affrontato sulla collina del Giullare. Quelli, oppure anche quelli che avete incontrato la prima volta, vi ricordate, quando stavate arrivando a Vallachi, e avevano un aspetto più boschivo addosso e avevano più foglie, erano decorate con dei, come si chiamano, delle, non delle ghirlande, però dei viticci intrecciati. Questi qui invece... erano dei druidi. Avete, insieme ai druidi c'erano anche dei berserker come questi. Grossi, arrabbiati, eccetera. Però appunto anche a te, Tucker, cogli questa differenza. Questi qua sembra più gente di montagna, hanno più pelli addosso di animali grossi e pelosi. E il loro corpo lo cospargono con della terra, sia per, come si dice, non far sentire il loro odore quando cacciano, per mimetizzarsi meglio, che è di un colore diverso rispetto a quella che avete visto sui corpi degli altri che avete affrontato in passato. E inoltre appunto i vestiti che hanno sono più pesanti, quindi suggerisce che siano proprio gente di che abita in montagna più, ed è discesa più. Per farsi godersi un po' la palude di questi mesi estivi. Per loro è la ridiera questa. Ah, che bello, che bello. Infatti, Lido, trovate Lido loro di sfida. Esatto. Ok. Sì, gli sciami di insetti si assemblano sui loro corpi e vi conviene proseguire. Ma se certo. Non volete venire. Sono invitati agli assembramenti. Allora. Andiamo, hanno, hanno tutti la mascherina molto piccola. C'è solo il tempo. Bene. Per una frase druidica. Cosa? Boh, tipo questi lapidario. Questi tipo questi animali uccisi adesso voi, a voi avete ucciso gli animali e ora date da mangiare agli animali, tipo una roba del genere. Ok. Voglio chiedere a parte. Ma io non sono io il druido, calma. Quindi chi se ne frega. Sono io il druido. Esatto. Occhio per occhio, dente per dente. Se con calma nel tragitto mi scrive nel mio libro degli antichi segreti i suoi rituali. Io? Ah, devo, bravo. Bene. Ancora questa storia, che palle. Mi sono accordato di vedere come funziona, ricordamelo che ci guardo domani. Aspetta. Vuole rubarti degli incantesimi. Salute. Oh, best quarantena, via, via, via. Posso anche trollarti, Marco, io. Sì. Puoi scrivere quello che vuoi. Esatto. Vai, Marco, cura Vets come ti ho insegnato. Scemo, certo, chi lei? Un pesce. Bene. Il vostro cammino prosegue relativamente tranquillo. Vedete ancora ogni tanto qualche apparizione dalla nebbia di quei soldati che combattevano la battaglia. Ogni tanto c'è qualcuno che compare duellando con un nemico gassoso, e qualche istante dopo si ridissolvono scomparendo. Vuoi vederlo un nemico gassoso? No, per fortuna. Con un cazzo che mi scorreggi. A quarantena va bene, annusarlo. Va bene che siamo in smart D&D. Bene, Pat, i tuoi sensi di druido, e la tua percezione sopraffina, scorgono delle sagome nella nebbia. Grosse. Delle sagome nella nebbia. ti sembra un circolo di menhir. Circolo di menhir? Che tette c'hai, Arci? Grazie. Un circolo di menhir che con questa quarantena dovrebbe essere chiuso. Beh, non è chiuso. Sento qualcosa a parte vedere. Sì. Cioè, avevano anche le altre streghe, qualcosa di simile. Esatto. Che brutta Arci, credo. No. Chi è che non lo fa? Voglio dire, sto fuori che dentro. Ogni tanto siete un sì, è la Ranatoro. Mezzo là dietro, ah, giusto. Senti, solo che con lag così non si capisce bene. Se non saltasse in giro e a destra manca una volta, potrei metterla qua davanti in sessione. Mangerebbe il cellulare. La liberi di tanto? No, meglio di no. Se la piazzo qua, che faccio che mi salti addosso di qua, di là, e sarebbe poco igienico. Non l'hai mai liberata? Non è che la libero, la libero, una ranatora africana, deve stare al caldo. E mette solo il guinzaglio quando vuol fare due passi. No, una volta, ogni tanto quando gli cambiavo il terrario, sistemavo un po', la mettevo sul pavimento un attimo. E ci stava? Intanto che... Sì. Bene. Per forza di gravità è obbligato a stare. No, beh, magari tipo diceva, sono libera, e cominciava a saltare. No. O si spaventava e cominciava a saltare. Va bene, una ranatoro spunta dalla palude e ti salta. Ero curioso. No, Katta, non ho tirato su quello, Perception, ho fatto 18, quello, vedo qualcosa. Stavo dicendo, quello che mi avevi detto anche cosa sento. Esatto. Senti il rumore di tipo di un oggetto di latta, tipo una per esempio il rumore che fa, non dico una lattina, però comunque un rumore metallico di un utensile. Sì, tipo... Tipo... Cacinghe o clang, non clang, è una cosa più leggera, tipo di alluminio, come dire, un okay. Oggetto esatto. Ma dai, a che distanza più o meno? Cioè, ravvicinato o lontano? Proviene da dietro, effetti sonori, roba. Proviene da dietro uno dei menhir. Noti che i menhir sono una dozzina, mm-hmm. E ce ne sono quattro più grandi, disposti ai punti, dei punti cardinali. Ma sono tipo in cerchio? Sì. Tipo Stonehenge? Un cerchio quasi perfetto, nella terra spugnosa. Sarebbe peccato se qualcuno lo rovinasse. Dico ai ragaz che ho sentito dei rumori metallici dietro e indico il menhir, perché tanto so qual è, no? Sì, c'è uno grande più vicino, poi da lì parte il cerchio. E vabbè, c'è una serie di più piccoli. Io indico dove ho sentito il rumore. A quanto siamo da lì? Lo vedete sempre ai soliti 60 piedi. E i menhir sono in mezzo a... E li avviso del fatto del rumore, dico che devi andare su. Ok. I menhir sono in mezzo alla palude, al pantano o lì? Strada. Posso andare io a dare un'occhiata magari? Sì, c'è un percorso che una volta era un sentiero ma adesso è completamente rovinato. Mi stelto. Puoi camuffarti da menhir. Bravo, vai a indagare. Sì. Arcantrickster. Mi stelto con 19. Okay. 19 un altro grosso fai cazzi su. Hai capito? Ho fatto 19, 6. 19. Okay. E poi mi stelto e vado verso... Quindi aspetta, piano. Mm-hmm. Cos'è che dovrei aspettare? Torni indietro a chiedere. No. Mi stelto e poi sussurro di tappacche. Cosa dovrei aspettarmi? Un rumore metallico. Allora vado. Ok. No, te l'ho detto che c'era un rumore allora. Di metallo. Sì, no, sì, io non è come un clang, è più come un ding. Sì. È che non ascoltavo perché guardavo un video bellissimo su Facebook. Ascoltarti, devi aspettarti un tipo uno Static Launch. Mezza riscrittato, mezza riscrittato. No, scusatemi, stavo rispondendo. Ah, sto guardando un video su Facebook. Arrivo via madre, molto semplicemente. Tipo Inception. Fai il giro coperto, il percorso coperto dalle fresche frasche. E... Faccio tipo le follie dell'imperatore. Esatto. Cantandoti la corona sonora. E quindi fai il capolino da dietro un menhir nascosto. Vedi che dall'altra parte del masso c'è una donna. Questa donna tiene in mano una lanterna, da dove senti il provenire questo rumore metallico, perché lei ha un aspetto molto scosso e provato, e tiene quindi questa lanterna in una mano tutta tremante, e per questo fa rumore, e nell'altra mano ha una spada corta. Sparo una freccia ora. Perché io ormai ho capito come funziona in questa terra. Bravo. È morto, hai ucciso il druido. No, beh, scuso una spada corta e quindi... E quindi vedi che guarda nella nebbia per vedere se arrivano se arriva qualcuno dalla strada, ma non ti ha visto arrivare perché sei stato. Cosa importante che non la saluti. No, infatti. Una volta lì tu ti ricordi il cerchio di pietra che c'era dal mulino delle. Eccomi, raga, per evitare. Mi piace, potresti vestirti. Per evitare spiacevoli sorprese, sono salito sul tetto nudo. No, volevo dire, sono cambiato. Ma c'è il sole improvvisamente. Eh? C'è improvvisamente il sole. Eh sì, qua c'ho il jet lag rispetto a casa tua. Eccolo. C'è il jet lag. Beh, ottimo che l'abbia messo giù. E tutti eri quando avete visitato il mulino delle strene, sì, no? C'era, ho preso anche le legnate. Esatto. E questo cerchio di menhir ricorda molto quello che avete visto dietro al mulino. L'ho detto appena Kat ha detto c'è un cerchio. Sì, Giulio, bravo, bravissimo Giulio. Vabbè, grazie, sei il master 2, per bravo, forza, bravo. Per quanto vorrei subito provare a lastettarla, torna indietro. Ok. E vi dico, Regiz, c'è una donna in mezzo, tremante, sospetta. Ma per caso l'hai riconosciuta, sai chi è? No, non so chi è, ma il cerchio è quello delle streghe, quindi io l'ammazzerei. Siamo però... a caccia di una strega. Esatto, io l'ammazzerei, però nel dubbio ve l'ho detto. Potrebbe essere giusto perché alcuna mi conosco. Giusto perché vi conosco e guardo, infatti guardo Vez. Beh, hai detto infatti, quindi Salla, porca puttana, non dovevi dirvelo. Perché non hai ucciso e basta? Ecco, col cazzo. Adesso l'hai ucciso, adesso non me l'hai detto e io devo giocare il paladino. No. Che ti spiego qual è la differenza. No, una donna in erbe, non tocchiamolo. È essenziale la differenza. Se io avessi sparato subito e lei non fosse morta, poi sarei morto io. In questo modo tu andrai, morirai e io starò comunque distante e mi salverò. Ognuno ha giocato bene il suo personaggio. È facile che non no, non ho capito, mi sono perso mentre cambiavo device. Salla ha sparato la vecchia. No, l'avrei voluto fare. Non c'è nessuna vecchia. Non è vecchia per ora. Per ora. Siamo gentili, non diciamo parolacce, non diciamo volgarità e soprattutto non diciamo vecchia. Vabbè, gli dico, beh, l'importante è che non sia il figlio del tizio, quindi possiamo non era, c'era solo lei? C'era solo lei? C'era solo la strega. Ma non è una strega, se hai detto che è scossa sarà spaventata, non è detto che sia la strega. Sì, ma magari è semplicemente perché è una vecchia di merda e non riesce a tenerla. Ah, allora, vedi, è una vecchia. È vecchia o no? Non ho capito. No, non è vecchia, ma essendo una strega... E dipende cosa mi dice lui, è vecchia o no? No, è giovane, tettuta e ha due gambe chilometri. Allora, ragazzi, una foto, vabbè, allora andiamoci a prendere stattinelli. Dico, ragazzi, ci penso io, faccio uno stealth. No, ecco, fermi tutti, raga, non è vecchia, ma siamo in questa terra di merda da tipo un mese. Sappiamo come va a finire. Secondo me è un mese, non l'avete. Dico, ci penso più. Io, faccio no, uno stand. In realtà non tanto, però. Avete sentito l'Arcane Tricks? Avete sentito l'Arcane Tricks? Questa sessione non mandiamola in onda nella giornata della sorveglianza con dentro le donne. Avete sentito l'Arcane Trickster? Fuori gli stardardi, procediamo! Ah, ecco, allora, se fosse per chi ci sta ascoltando, se fosse stato un uomo o un bambino, l'avrei comunque... Sarebbe già morto. Avremmo mostrato maggiore rispetto, però era una donna e diglielo. Se fosse stato un negro, un ebreo, un omosessuale, sarebbe stato comunque ucciso. Esatto. Ci tengo a sottolinearlo. Esatto. Diciamo la verità, se fosse stata qualsiasi cosa, sai. Comunque, Salla, quanti danni le hai fatto? Non l'ha uccisa. No, perché voglio che Vez faccia la sua cazzata quando io sto lontano. Così okay, nel caso allora, lui. Non mi posso avvicinare 30 piedi. Aspetta, sfortuna, dove stai andando? Potete fare quello che volete. Ma ci stiamo muovendo a cazzo? C'è un ordine di iniziativa? Cosa no, mi siamo persi? Non c'è un'iniziativa, dovete solo decidere che cosa fa. Tutti lì, potrebbe essere... Senti Katta, hai detto dovete solo decidere cosa fare, sapendo che è la cosa che implica più o meno dalle 6 alle 8 ore. Potrebbe essere, ragazzi, tranquilli. Andiamo con ordine. Esatto. Vardis è andato, è tornato e ci ha detto che ha visto una donna giovane tremante con una spada in mano. Sì, che però è tipo è in mezzo al circolo delle streghe in una terra in cui qualsiasi cosa guardiamo diventa ma quello lo salutiamo. Ne sono perfettamente consapevole. Io lo ripeto, so che io faccio... infatti, come dicevo, io lo ripeto perché so che qualcuno potrebbe, e mentre lo dico guardo Vez, potrebbe capire mentre, mentre allora... ci sta aggiornando, io estraggo la spada d'argento e una spada normale. Okay. Potrebbe potrebbe essere una vittima delle streghe, però è anche vero che potrebbe essere lì nel circolo a perdere tempo. Sì, potrebbe essere comunque una trappola, potrebbero essere in attesa di saltarci addosso. E sì, io faccio un religion per capire perché io in realtà forse l'altra volta non so se lo sapevo, cioè se il menhir, cioè chi è dentro il menhir è perché fa parte del bravo, era mia religion di un sortilegio 21 facevano la farina di ossa di bambini dentro al circo di menhir, ma quella lo facevano nel mulino, non nel circolo di menhir. Nel mulino che vorrei dei bambini faccio hai un armadio pieno di bottiglie, le ossa di bambini lì dentro al circo, non c'è il menhir. Le ossa che c'erano dentro al circolo non erano di bambino, no. Se mi ricordo bene. Comunque le conoscenze di religione del saggio Vardistran gli suggeriscono che i menhir sono ben antecedenti a qualsiasi altra cosa che avete visto finora in Barovia. Aggiungo sciocco e tiro lo schiaffo. Oddio. No, è un adesivo Arci. Non è... Ah, ok. Spiegherebbe molte cose. Molto precedente di tutti gli insediamenti in cui siete mai stati, e riconosci che sono fanno parte dello stesso culto di antico che eresse quelli che avete visto vicino al vecchio mulino, e e noti delle molte somiglianze tra queste pietre. Noti che appunto sono le pietre più grandi, sono disposte nei quattro direzioni cardinali e che rappresentano le quattro stagioni. E quelle più piccole hanno rappresentano come dei piccoli totem, ognuna un animaletto, un orso, un alce, un cervo, un gufo. Mi sa che ho sbloccato la descrizione. Hai sbloccato la descrizione, ma non tutta, e quella finirà dopo. Quattro stagioni alla grande. E quindi puoi dire con certezza che il culto venerato in questo circolo non ha nulla a che vedere con le pratiche della stregoneria. Quindi loro semplicemente si sono avvicinate perché era un luogo iconico, così. Ma questo luogo c'era qua da prima. Quindi c'è magari perché ha una fonte di magia, però non fa parte del loro... Non è un luogo adibito ai rituali. Non è adibito. Non è adibito alle pratiche. Se ti vuoi provare una stregonesca, provalo, ma io allora non la mia cosa luce. La mia idea è questa. Ci dai tutte queste informazioni? Certo. Dannazione. La mia idea è questa. I nostri sneaky, sì. Quindi Arcane Trickster Race Saladin's is Misfortune, Candemium, Mercus vanno, si mettono sui lati nascosti, pronti ad agire e ad avvisarci nel caso qualcosa si avvicinasse a noi da lati sospetti. E noi invece ci avviciniamo molto rilassatamente a questa donna e vediamo cosa succede. Bella idea, ma ascolta un attimo il mio piano. E se usassi plasma terreno per far collassare parte dei cosi sulla persona che sta al centro? No, perché... no, grazie. Grazie per il tuo suggerimento, Sfortuna, però no, grazie. Non adesso. Al centro, se dovesse trasformarsi nella strega, se... sì, è una buona idea, ma adesso no. È di fianco ad una dei menhir più grossi, non è al centro del cielo. Appunto, sarebbe perfetta in posizione, c'è no, una X. Potrebbe, c'è benissimo, una X. Potrebbe benissimo essere un innocente, Miss Fortune. Questo non è un rito delle streghe. Vabbè. Ha una spada, non è innocente. In una palude. Ha una spada questa? Sì, ha una lanterna e una spada corta. Beh, avviciniamoci con molta cautela, indubbiamente. Io magari voi potreste... Ti metto una mano sulla spalla. E dico, non ci sono innocenti. Va bene, allora Vardistran si avvicina. Allora, no, aspetta. Io lascio qui il mio alce. In un altro gioco avrei detto l'innocenza non prova nulla. Io lascio qua il mio alce, gli dico, stai pronto, amico mio. Non devi dirglielo, basta che glielo penso. Beh, vabbè, posso fare quello che mi pare. Così. È un gioco di ruolo. Io guardo Atanas e dico, cosa facciamo? Te l'ho detto. Tu hai detto noi facciamo, ma noi facciamo quello che vogliamo. Certo. Tu sai chiaramente che Sceo di solito a un certo punto delle avventure esatto. Diventa una mia appendice. No, però nel senso vedo, esatto. Vedo il paladino partire e chiedo a lui. No, è quello che vi propongo. Cioè, io vi consiglierei di venire con me e gli altri di andare in sneaky. Poi se voi rimanete tutti lì a sbavanti, vado da solo. Ah, esatto, il mio senso è tu mi vedi che ho estratto le spade. Tra cui quella d'argento, aspetto tipo The Witcher. Beh, e aspetto tipo un paio di metri e che Vardistran si incammini e poi lo seguo a distanza di un paio di metri. Ok, faccio lo stesso anch'io, ero l'idea che avevo anche posto. Ok, gli altri due si stanno tutto. Io mi sneaky e me ne vado. Okay. Io mi sneaky e me ne vado via. Rimango comunque a grazie. Okay. Tu Archi cosa fai? Roma. Thor cosa fai? 24. Non ho capito la dinamica. Vabbè, tanto per rimanere indietro non è che... Beh, si avvicina 4-4. No, mi avvicino, cioè... Io... Sono comunque Detto che resta in visuale. Ah, esatto, la distanza Ah, ok, sicuro. Ok, avevo capito che se ne andasse proprio. No, scusate, ma a parte la vecchia chi c'è? Nessuno. Non è neanche vecchia. Sì, ho capito, la tettona con le gambe lunghe. Però dico, a parte sto caso, perché c'è tutta questa terrore generale? Non lo so. No, non è terrore. Perché la campagna di con le armi. È che la maggior parte di noi pensa che sia una strega, mentre va il paladino ci vuole parlare. È comunque un luogo di culto strano per noi. Le lancio il giardino. Allora, come Arci non ti sentiamo, detto. Scusa, è disturbata la galleria. No, è lancio un voltino, non dovrebbe ucciderla. Da dove sei non la vedi. Va bene, arriva da questa visuale. Prima che arrivi il volto. Sì. Okay. No, vabbè, arriva prima. Se no, parliamole, regà, mi avvicino. Sì, quello che stiamo dicendo. Stiamo andando così. Assolutamente antisgamo questa cosa, Kat. C'è Vardistran a un paio di metri e seguo io con le spade sguainate. Assolutamente antisgavo. A Garrosh immagino anche tu sia lì, dietro di noi. Sì, è che col fatto che non abbiamo un'iniziativa non sto capendo a livello cronologico. No, niente. Voi era semplicemente una dichiarazione di intenti. Ognuno ha dichiarato che cosa fa. Sfortuna e Ressi sono nascosti. Vai, stanno, allora, solo in vista. No, io sì. Non sto vicino, io sono... Allora, io preparo un'azione, beh, appena Vez comincia a parlare lo faccio diventare un gorilla gigante. Va bene. Allora... Non vogliamo fare... Aspetto che inizino a parlare loro per inserirmi. Okay. In poche parole, noi cinque ci godiamo la scena del... Vedi che dal cerchio di pietre... Ho anche il calice di strada, guarda. Ah, sì. Io? Vedi, zitti un attimo, Bardistan, tu vedi da dietro il menhir venire un segnale intermittente di luce, come quando con la luce della lanterna ci metti davanti la mano per fare un segnale. Man mano che ti avvicini, vedi che c'è appunto questa donna che cerca di attirare la tua attenzione. La mia? Sì, perché per adesso ha visto solo te uscire dalla nebbia, Ah, ok, cioè, una cosa troppo lontana. pensavo che lei lo facesse da qualcun altro, io non lo dassi. Ok, In periodo di carestia ogni paladino è galleria. Esatto. io mi volto verso gli altri per far segno di stare attenti e poi mi avvicino molto piano e voce molto bassa, dico. Non siamo nemici, cosa fai qui? Lei ti sussurra appunto e ti fa tipo, segno di fare ancora più piano, è molto impaurita e ti dice con un filo di voce: il signor Bardistram, è lei? Come? Sparo. Come ti permetti? Messer Bardistram, forse. No, Lord adesso. Ci siamo, Imperatore. dico, ci siamo già visti? Lord di Kresk, Il Lord reggente di Kresk. signor Martinkov mi ha raccontato di lei. La stavo aspettando. E ti fa vedere Beh, una si piuma di innamora anche di corvo. questa, sicuro. Mi fa No, vedere? perché? Una piuma di corvo. Ah. Il mio nome è Ciao. Muriel. Ah, sì, è quella una di quelle della carovana che sta Non per. l'avete ancora vista lei? Però l'abbiamo sentito parlare, No, non è la prima volta che sentiamo parlare. non mi ricordo, può Secondo darsi, me può l'avevi darsi. detto, tipo, è una delle figlie, può essere? Controllerò questa cosa, mi hai messo una pulce nell'orecchio, non mi sembrava, Vabbè. perché lei era, ti dice che era qui in perlustrazione ed è stata mandata da Martinkov a cercare suo figlio. Ah, ok. Ah, È vabbè. morto, sparo. Non si fida di Allora, noi, Martinko. quello ha disperso, non quello morto. È morto lo stesso. E hai Probabile. visto le E se non streghe? è ancora morto, lo sarà. O hai Esatto. trovato. Com'è che si chiamava Elvir? No, Elvir è morto. Un altro. Elvir è Elvir è morto. morto. L'altro aveva un nome corto. Tipo. No, forse mi Dag. confondo. Come? Sì, O Dag. Devian o Adrian. No, è Doug il disperso. Doug, È il direttore morto. hai visto Doug? Hai visto le streghe? Da cosa hai paura? La Lei è qui vicino. strega? Baba. Shh. Baba Lisaga abita tra le rovine della città e ti indica in qualche metro più in là, vedi che cominciano nascoste dalla nebbia. Delle rovine, ci sono dei muri diroccati pieni di muschio e ormai divorati dalla vegetazione. Non ho il coraggio di avvicinarmi. Se senti in silenzio, si possono sentire le grida d'aiuto dei miei fratelli. E se ci fai caso, provenendo da quella direzione. Si sente ogni tanto il rumore del graccidio di uccelli, E ti il sei. verso dei corvi. Ma ti sei anche avvicinata prima o No, non ho lasciato questo luogo. Qui è sicuro, non so per quale motivo, ma tra queste pietre non mi può cadere niente di male. Vedi che dondola un pochino, Ok. in evidente stato di shock. Puoi prendere il volo, però puoi tornare a Kretsk. Sì, avevo paura di muovermi da qui da sola. Adesso che ci siete voi sono un po' più Ci tranquilla. pensiamo noi adesso. Dimmi Voi se chi? Non vedo, cioè sì, in realtà vede i miei se vi si amici avvicinano. sono timidamente cauti, giustamente anche, ma non ti preoccupare, siamo venuti qui Qui per cercare tuo dentro fratello. siete al sicuro, tra queste pietre siete al sicuro, Abbiamo sì. capito, ma Ma non ti preoccupare per noi. sente solo Vardistran sta roba? Non ci sono interferenze, quindi man mano che vi avvicinate questo discorso lo sentite Io sono chiaramente. 2 metri dalla Quelli, finestra. Che tu sì, quelli stealthati no. cosa sai della strega che ci può aiutare? Qualunque cosa. È un essere antico e potente. Vive in una capanna al centro del villaggio. Quando non è nella sua capanna, lei vola in giro dentro un gigantesco teschio. Ma il villaggio è abitato? No, il villaggio è completamente disabitato ed è in rovina, Ok, quindi ma c'è solo lei sostanzialmente. non in quel senso, non è abitato da persone. Ok, solo i suoi Non tirapiedi. è, sì, ma abitato, non intendiamo qualsiasi creatura che striscia, grugnisca, Molto bene. Allora, mangi, possa sentire guardatevi dagli passi. spaventapasseri. Gli spaventapasseri di Berez sono creature assassine e sono sotto il controllo della strega. La capanna al E centro. gli spaventapasseri circondano la sua capanna e hanno la funzione di avvistare i malcapitati che cercano Per di avvicinarci alla avvicinarsi. capanna, sai suggerirci una via? Onestamente, esplorerei il perimetro per cercare un luogo d'accesso sicuro, ma io non ho avuto il coraggio di Ma tu farlo. sei Ci scappata sono qui da pollai. dove Pensi stavamo vivendo? di voler provare adesso? Se no, torno pure a Kretzke e ci pensiamo noi qua. Sì, io non mi avvicinerò più, Allora, sono ciao. terrorizzato. Vai. Sei libera? Sì, vai, Però esci da resta questo cerchio magico. diventato odioso verso le donne dopo la brutta storia di Rin. No, perché scusa? È perfetto, è salvala, cioè Sto l'abbiamo salvata. scherzando. Posso dirvi altre cose? Vi possono servire Dicele. prima di andare. Certo, dicele tutte. La strega periodicamente manda i suoi spaventapasseri ad attaccare le nostre terre. Un esercito di spaventapasseri. L'ultima volta vi hanno Noi abbiamo abbastanza. vinto. Sì, è vero. E non avevo palla di fuoco, no? Li trasporta un essere osceno. Lo chiamano l'agricoltore. Ma scusa, ma lei ha paura dello spaventapasseri perché ha un corno? Sì, Come? esatto. Sì. Cioè, in realtà questi sono normalissimi spaventapasseri, ma lei... Oh Esatto. mio Dio, oh mio Dio! Sì, tra l'altro in inglese fa anche più ridere perché è scarecrow, quindi. Quindi tipo, e quindi tipo, allora arriviamo, sono tipo tutti gli spaventapasseri totalmente fermi e tipo ci sono i corvi lì in mezzo. Sì, in realtà è quello del mago di Oz, tipo, super carino. Senza Salve cervello. signore, cosa posso fare per lei? Usano anche oscuri incantesimi che generano luce. Vuoi dire la carta stagnola? Oh mio Dio! No, quello era l'omino di là. Le girando, le zzzz. Lui Questa campagna è talmente strana che potrebbe anche essere. mi dice anche che dietro la capanna la strega tiene un recinto con delle capre di montagna. Buone queste capre di montagna. Suppone per la sua Sacrifici. sussistenza. Tullio sgozza le capre di montagna. Ok. Manda gli spaventapasseri contro le Trigger. tue terre. Beh, quello non è più un problema. Adesso siete a Io, Kretzk. Rega, vi devo salutare. Ah, Sì, anch'io. ciao. Ciao, Proprio ragazzi. Sto adesso. facendo ciao con la mano, eh. Dimmi solo se entri nel cerchio di Buonasera. pietra. Se entro nel cerchio di Io pietra? no. Io no. No, E mi se serve parte... sapere Arci se... Ah, ok. No. Io no, e se Vardistan entra, io Io sono già rido e rimango dentro. nascosto. Ma io Sì, sono già guarda. dentro. Io sono Bella, Rega. già dentro. Ridi Ah, pure. allora rido e resto nascosto. Ok. E ti sfreghi le mani, per favore. Ciao, Arci. Ciao Ciao, Arci, ciao Mario. Salla, ciao Ciao, Rega. ragazzi. Ci sentiamo per il weekend. Ciao. Dite. Salla è andato. Scegliete un giorno, sabato, domenica, pomeriggio. Direi sabato. Va bene, scrivilo. Ciao, ciao, ciao. Oh. Pochi ma buoni. Cioè, ok, no, Ok. scemo, no, però. Come? Oh, cosa? Discreti. Dai, qui sì. Dai, qua faccio il barbaro. Beh. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo appena perso metà del nostro gruppo, ma non ti preoccupare, ci pensiamo noi. La descrizione a mio tutto dei film. È E, tutto, esatto. esatto. E, va bene, ma scusami, solo un chiarimento. Cioè, ok, tu dici attaccano le vostre terre. In questo momento questo è un problema relativo, visto che siete a Kretsk. Come noi li abbiamo già Ah, sì. affrontati, in realtà sappiamo già come affrontarli, a dire la verità, no? Sì, li avete già affrontati. Però lei è Saremo completamente sconfitti. E quindi fanno delle ronde, tipo, ma... Sì. Cioè, delle spedizioni punitive. Cioè, No, come sì, quella che ok. avete visto. Sì, però nel senso ormai è un problema relativo quello. Vabbè, ah, adesso avete delle mura che vi difendono, chiaro. Però sì, comunque le terre, le loro vecchie terre, di fatto le hanno abbandonate per trasferirsi lì. Quindi, Certo. no, quindi loro le Torna a reclameranno. Kretsk. Giulio, cosa stai Non lo facendo? so, faccio quello che devo. Una Perugine, una Tutatis. sfilata di dei egizi. Cosa sta Esatto. succedendo? Questo era. Qua, qua. Bene. E va bene, va bene, va bene, vai, vai. Ok, questo è quello che vi dice, vi ringrazia di quello e vi chiede di, per favore, portare in Porta salvo una cosa il importante, una vostro cosa fratello. importante, una cosa importante. Di a Martinkov, Sì. questo è molto importante, Allora me lo segno. che siamo stati a Vaktargrad e abbiamo incontrato suo figlio, sta bene, ma adesso purtroppo hanno chiuso le porte. L'avevo detto anche ai Garzo, agli altri, però diglielo anche tu, che Certo. potrebbe essere molto in difficoltà, quindi bisogna valutare un qualche piano per aiutarlo. Perché adesso hanno Certo, chiuso e potrebbero cercarlo per smascherarlo, insomma. perfettamente. Lo farò senz'altro. Siete sicuri che non volete che rimanga qui? Si può rimanere qui, rimani qui. No, non rimanere qui, perché tanto se non ci vuoi aiutare a perlustrare, almeno ti metti al sicuro. Va bene. Così Allora, buona fortuna. appena esce, muore, viene attaccata. Addio. Ah. Speriamo di no. E che la madre notte sia con voi. E se ne va. Casca, io e Giulio siamo a 2 metri Sì, dice che la madre praticamente notte sia con voi. dietro. Sì. Sì, Come va? anche i corvi vennero come tutti i mannari la For the notte. mother is dark. Già sono Casca, l'inviato. io e Giulio Bravo. siamo a 2 metri dietro Vez, vuol dire di essere già dentro il tempio. Oh, prima eravate lontani, ma ora volete essere vicini. Mai Sì, stati lontani, abbiamo detto che sono siamo a 2 passi stati 2 metri di dietro distanza. di te, Vez. Sì, siete esattamente sul perimetro. Sparo a Vez. La strega, strega! La strega. Perché cosa mi vuole di chiedere, Gabriel? Volevo capire se ero già dentro il cerchio o meno. Sono Sì, sul limite. sei proprio sul perimetro, un passo avanti e Sono sei. lì. Siamo lì. Ok. Allora, lei quindi va a portare il messaggio a Martinko. Ok. Ok, e prima di andare vi indica la direzione dove parte il sentiero che portava alla città. E Ok. appunto in quella direzione vedete riaffiorare sempre più spesso delle pietre, delle colonne, delle vecchie Ci raduniamo, direi. rovine. Dentro o fuori dal cerchio? Vado io a prenderli fuori dal cerchio. Ok. Posso fare un detect magic Sì. rituale? Anche perché molti sono sparsi. E a quelli che vedo dico, era, vabbè, voi forse avete sentito in realtà, però era Sì. la figlia di Martinkov. Cioè, non ho capito in realtà, perché ha detto i miei Sì, fratelli. adesso la stavo cercando. I suoi fratelli, lei si riferiva ai corvi, che per loro Brothers, hanno. brothers. Vabbè, era Tra. una dei Mar del clan Martinkov, Muriel. Esatto. E in quanto donna non ho avuto coraggio di affrontare. Beh, vabbè, non lo so. No, Mural di scherzo, cognome scherzo. Winshow non è un parente di Martico, però è fa parte della Era gente. una Martinkov minore, di un ramo minore. di un dio minore, di una dea della, della notte minore, di una madre notte minore. Ah, e... abita a Ex Vallati. Lei? Sì, era residente, adesso evidentemente non più. Cioè, ora che l'hai detto, hanno chiuso, se ne va a crescere. Beh, buono. Può sempre volare dentro come nato. Allora è stata, sì, una cosa, allora è stata una cosa importante che io gli abbia detto. Vabbè, se ne sarebbe accorto. Da... Però è meglio che se ne sia accorta. Allora non interagiamo con i PNG e spariamogli e basta, perché tanto se ne accorgono. Allora, aspetta, che meglio. Devi vedere quanto era bello reagire con i PNG. Allora, lei dice che gli unici PNG che non sono stati uccisi è perché tu hai interagito prima di me. Ma piano è fantastico. Ma molti hanno provato a morire dopo, o sono morti comunque dopo. Ma allora, adesso c'è qualcuno che sta facendo il rituale di Detect Magic. Come, scusa, Bardister? Sì, no, io sto parlando con quelli che vedo. Se lui è a 400 piedi e fa le sue cose, dimmi tu chi fa cosa. No, siete tutti lì. Cioè, lui è... Sì, so che, perché so che lui era andato proprio via. Quindi, cioè, probabilmente queste robe qui non le ha proprio viste, visto che è andato via. È andato a Roma, ma poi è tornato. Mi era allontanato per bene, ma viene lì, fa segnali, mi avvicino e fa tutto. Va bene, allora il discorso è che lei ha detto che nel villaggio lì è abitato dalla strega, che è nella capanna al centro, ed è presidiata da questi spaventapasseri che fanno delle ronde in giro, anche delle capre, che forse non servono di ora. Secondo lei ci sono ancora i Martinkov vivi, perché si possono sentire effettivamente degli urla di corvo, degli squittino, delle grida di corvi. Detto questo, è ovviamente una buona speranza, potrebbe anche essere semplicemente un modo per attirare a sé, però noi abbiamo perso il maschio, abbiamo perso il maschio. Ah, ora devo ammettere che... niente ragazzi, saliamo di livello e quindi facciamo 3-4 livelli. Vinco infinito più di voi. Vinco più. Ah, proprio basta, vai. Combattimento della compagnia. L'abbiamo perso. 25 su sì, qualcuno che ha meno di 25 come classe armatura. Tutti abbiamo meno. Allora vi colpisco tutti, va bene. Sì, è offline. Sì. L'abbiamo perso. Vabbè, possiamo vedere se si riconnette. Massimo chiuderemo qua. Non è un... Però in compenso l'audio ci sarà tutto. Ha avuto un problema, adesso si riconnetterà. Sì, diciamo, no, ma l'audio in realtà io l'ultimo è venuto bene, quindi se non mi abbandona questo per qualche motivo, tipo che non sta andando. Ah no, cos'è? No, sta andando. Ah sì, semplicemente non parlavate, posto. No, in teoria... No, mi sono spaventato. No, e tutto a posto. Per cui in teoria non avremo bisogno necessariamente del suo audio, non è un grosso dramma. Visto nel frattempo che aspettiamo di capire se lui può rientrare, eccolo. Stavamo giusto dicendo grazie, ciao, non importava salire di 5 livelli in un colpo, va bene anche 4. Ogni tanto Austin Spike, carica la connessione. Non ti preoccupare, cazzo, non ti preoccupare. Comunque abbiamo detto. Sappiamo che la Miki dall'altra stanza che infatti, adesso la vado a sgridare. Comunque gli... Abbiamo detto una serie di vinco. Gli informo su quello che ci ha detto. Io ho detto vinco infinito più di voi. Gli informo su quello che ci ha detto la tipa e gli dico anche che lei ha detto che questo cerchio di Menhir è un posto sicuro. Esatto. Tuttavia è comunque lontano da dove dobbiamo andare, quindi... Vabbè, vediamo, mettiamo Vezza al centro e proviamo a colpirlo. Se non gli succede niente è un posto sicuro. Io quando ero dentro al cerchio era tutto normalissimo, non c'era niente di strano. Quindi cosa, nel senso, cosa vuoi fare? Vuoi riposarti qua e poi attaccare? Attacchiamo. Io direi che procediamo. Ok, il rituale, cioè aspettate, il povero Sfortuna fa il suo rituale. Perché l'altra sarebbe provare di di attirarla qua, però. Ah, sì, è vero. Sì, allora, potrebbe essere una possibilità. Però è un po' lontano, credo. Il rituale di Detect Magic ti rivela che in questo momento non c'è più magia in questi menhir, ma che una volta era presente e anche in grande quantità. Spell Detect Magic, vediamo cosa dice. Non c'è più, ma esatto, in questo luogo venivano fatti dei rituali magici molto potenti dai druidi e se il vostro druido fosse entrato avrebbe scoperto che il non ce lo dire. Ma forse lo sa sfortuna, però. Mi piace comunque dirlo, perché tanto Arci non lo ascolterà mai, quindi mi piace che voi sappiate esatto, che cosa si è perso. Vabbè, Arci sarebbe diventato un dio, ok. Esatto, perché questo... quanto godo! Godo troppo! Potenzia praticamente la magia druidica. Sai cosa mi piacerebbe fare? No. Distruggere vabbè. Tutti questi menhir adesso. Però, per non dargli la possibilità. Quanto mi dispiace, Arci. Però il master entrato. Che ti dice cosa fai, entri, chiunque avrebbe detto no. Effetti. Cosa vuol dire? Vabbè, anch'io io sono andato lì convinto che questa fosse la strega, però il mio è il paladino, quindi si gioca così. Certo, guarda, certo, però quando il master ti dice cosa ovvio, fai, entri. Anch'io, no, comunque, è ovvio, anch'io. Il mio piano era questo fin dall'inizio. Il mio piano era questo. Voi non avete voluto fare. Con Paint, con cosa avete fatto? Sì. Bellissimo. No, però... mandamelo su Thunderwave. Please. A noi hai dato inspiration per piani peggiori di questo. No, una cosa. Ma ce l'ha già l'inspiration. Ma chi è che non ce l'ha praticamente? Nessuno. Quelli tutti, che la... cioè abbiamo tutti l'abbiamo avuta più volte. In realtà io tipo ne ho accumulate 25. Chi non ce l'ha, capta perché l'ha regalata a me di solito. Esatto. Quindi tu ce l'hai. Ma infatti ve lo volevo dare mai, certo. siete stati abbastanza interpretativi oggi. Una cosa nel tuo rituale la comprendi però chiaramente è che all'interno di questo circolo le creature all'interno non possono essere individuate dalla magia di divinazione o percepite attraverso i sensori di sfruttamento magici. Sono delle rocce antiradar. Sì. Allora, comunque ripensando che Arci doveva essere incuriosito dal fatto che c'era rappresentazione di animali, in effetti. Ma certo, è ovvio, però lui non, cioè, alla fine è druido solo perché così può diventare orso e combattere. Cioè, bisognava dire c'è un disegno di un orso al centro e lui... No, vabbè, nel senso... È vero. Cioè, direi classico esempio, però ci sta. Vabbè, quindi significa che qua dentro Strad non può vederci. In teoria può essere quindi possiamo percepito. Fare dentro fuori puoi vederci fino a un secondo prima io ho un'idea, se ci organizziamo con le razioni possiamo stare qui tipo un mesetto e vedere se la parola una nuova civiltà secondo me quanto è grande esatto e poi chi si comporta 100, male andrà fuori 100 piedi di diametro. Ma va anche in alto o c'è un limite di altezza? Questo non lo so. Sicuramente dopo un po' c'è un limite. Costruire la grattacieli. Direi che puoi assumere che sia una sfera. Ah. Noi ci stiamo, siamo in 7. Scaviamo. C'è un palazzo. No, l'unica... Scaviamo allora, così sfruttiamo anche... Quello che diceva... Non mi ricordo quale dei bosi... di attirarli sì, Giulio. Potrebbe essere solo io faccio dei piani infatti potrebbe che però... un senso che non siano splat beh però anche se è anche uno un po' splat se ci permette no era bello domanda era bello. Quanto siamo distanti dal villaggio? Non lo sai, perché vedi giusto qualche rovina che inizia nella nebbia e poi però non vedi più niente, quindi potrebbe iniziare subito dopo o 100 metri ancora, però non troppo, ecco. Perché potremmo cercare di capire intanto dove siamo rispetto a lei, perché magari siamo a 200, magari siamo ancora lontanissimi. Questo lo dovete fare sicuramente. E quanto, vabbè, però, ok, sì, vabbè, potremmo farlo... potremmo farlo mandando una compagnia bella. Sì, non è il momento perché... Trickster. Anche tu hai un famiglio. Sì, ma anche l'Arcan Trickster ce l'ha. Il suo però è un... Non c'è. Il suo è un top. Il tuo... No, il mio è un gufo adesso. Ah, un gufo, è vero. Ah, è top allora. Non è il gufo. Però il suo anche Blind Vision, non lo vogliamo spostare. Un pipistrello. Beh, tanto nella nebbia... appunto, nella nebbia vede meglio. Quanto è lontano da sto villaggio, sto posto, esattamente? Cioè, più o meno. Quello che stavano dicendo, non lo sappiamo. Vedi, a 100 piedi da dove sei tu, vedi che cominciano delle rovine. Ma non sai se da lì comincia il villaggio oppure va ancora più là. Cioè, vabbè, se c'è una visibilità di 100 piedi... Quindi l'unica per il momento è esplorare, poi dopo decideremo in base all'esplorazione. Guarda se, guarda se dall'alto c'è più visibilità. Se il gufo come non mangiare meno visibilità. La quando nebbia, gli irti colli più vicino al sole. In teoria quando con la nebbia comodo, no. Quando fa cioè... comodo. Sì, ma magari la nebbia è fino a, che ne so, 3-4 metri, quindi più... Se c'è una cosa più in alto, punta fuori. Sì, esatto. Capito. Ma del gufo. Anzi, tra l'altro la nebbia a 3-4 metri di altezza è comunque tanto, cioè, più basso. Mm-hmm. No, è che non vedi cosa c'è la sotto, però. No, chiaro. Questo è il concetto. Ah, però dice Vez, cioè, se c'è tipo una torre... Ah, sì, sì, in teoria non è una torre, è una capanna comunque, raga. Vabbè, però, insomma, era per dire magari qualcosa... Una zona magari sopraelevata, cioè, lei ha detto... che la nebbia a un certo punto si diradi. Ok, io mando il gufo, okay. E mentre il gufo va, mi piglio, non so, 10 minuti per fare un discorsino, nel senso... Ok, non siamo proprio al top in questo momento... Non abbiamo un piano, non abbiamo niente. No. A stento possiamo competere con l'armata di Ventapasseri, ma... Non si fanno così discorsi motivazionali. Sapevo che c'era un... non ero volevi sicuro... Fare forse volevi fare un discorso alla milanese, tipo, non siamo al top, zio, però siamo comunque in pole position. Per cui, Andersen. Allora. Ma daremo il meglio di noi stessi. E se le cose vanno male, il barbaro va davanti e noi andiamo via. Va bene. Hai il mio martello. Vai, vi ho condiviso anche questo. Hai il suo martello. Sì, hai il mio martello. E lo puoi andare nudo, va bene. Grazie. Dallo al gufo, così lo porta in posizione. Esatto. Esatto. Allora, il gufo parte. Ti ricordo che tu, appunto, tipo, comunichi con lui a 100 piedi di distanza, quindi gli dai le istruzioni e dici fai un giro, vedi che cosa trovi e poi lui ti ritorna e ti dice che cosa ha visto. Dunque avete 11 allora. Punti vita temporanei. Allora, segnateveli se no, insomma, anche l'alce? Dipende sì. Quante persone, quante creature puoi fare. Credo 10. 6, fino a 6. Ok. Quindi direi il mio gufo è andato, quindi noi quattro e l'alce. Anche devi contare anche quelli che non ci sono. No. Vabbè, no alce e gli altri due, va bene. Temo però che debba comprendere quello che dici, non so se... Uno è nascosto e ridacchia e non lo vediamo. Solo Arci potrebbe, che comunque è lì. Va bene. Comunque. Il fight, ragazzi. Sì, tanto proseguiremo la prossima sessione, esatto. Adesso vi farò la descrizione di quello che vede il gufo, okay. Mi dispiace. No, vabbè. Vede tutto pronti a fare l'alba. Allora. E anche la nebbia copra tutto. No, la nebbia copre la maggior parte delle cose, ma ci sono alcune cose che spuntano dalla nebbia e che si possono vedere Vedi, dall'alto. vedi. Allora, innanzitutto dice che le rovine occupano un'area molto grande. Questa potrebbe essere la mappa più grande che in termini di estensione, non di spazio che occupa sulla pagina, però per darvi un'idea, un quadretto occupa 100 piedi. E poi man mano quando la vedrete vi renderete conto. E il sentiero infatti prosegue per almeno un altro migliaio di piedi prima che iniziano le rovine ancora più, È diciamo, lunghetta, è più lunghetta. conservate. Dopodiché ci sono due gruppi, il sentiero si biforca. E ci sono due gruppi di case, uno a nord e uno a sud. Tutte rovine, no? Cioè, tutto in rovina, sono dei cottage abbandonati, si chiamano. Ok. Quindi c'è fretta. Giulio, se puoi ricordare. Sembra un po' la sua solita espressione. No, Si è va ripreso. bene. No, no, giù, è tutto a posto. Adesso è a posto. No, si è frizzato di Si è nuovo. frizzato, però con lo sguardo molto più severo. Frizzato e preoccupato. Ve lo dice perché dall'alto si vedono i muri di queste che separavano. Scusami, è che ho mio fratello che ti guarda con quello sguardo. È abbastanza assassino. Non andare Beh, così, Giulio. adesso ride. È È prima tornato, è tornato. dell'omicidio e dopo l'omicidio. Devo fare uno screen. Vabbè, cioè, Non sentivo nulla, erano tutti frizzati. Noi abbiamo Folklore frizzato frizzata te. per noi. Ed è stato È bello bello che eri perché frizzato tipo tipo con lo sguardo molto, molto preoccupatissimo. cattivo. Va bene. Appunto, lui ti dice che il sentiero si biforca e porta a sud e a nord a questi due gruppi di rovine in cui si distinguono ancora i muri diciamo, di cinta che delimitavano le proprietà. E in mezzo a questi due gruppi di abitazioni, lui vede questa cosa. Lui te la descrive, ma io faccio prima fare così. Vale. Una strega. Ah, no. Una capanna. Una capanna sopra un Un semovente. tronco. No, Gambera di. è ferma. Però vedete che è appoggiata sopra questa strana struttura che è praticamente la base di un albero di quelli presente tipo quelli concavi che sotto appoggiano uno spazio. Sì. Ok. Quindi sì, è appoggiata su questa base di Cioè, sembra proprio dei albero. piedi in realtà, visti così. Sembrano dei Perché c'è piedi. scritto il drago. Se no, Esatto. rega. No, Ok, rega. Hai proprio ragione. Oh, cazzo. Lo scoprirete Troia. nella Cosa prossima dice? vita. Due Ma strade. no, è che tipo, secondo me, c'è nella battaglia di nebbia c'è anche un Spoiler. Ehi. Altro Beh, torniamo indietro, problema. abbiamo fatto il Io nostro sentivo. dovere. Va bene. No, come abbiamo visto i soldati di nebbia, c'è cioè un drago di nebbia, c'è cioè un combattimento di nebbia. Ah, può essere. Solo che sì, è impossibile riposare, vabbè. Ancora più Perché? là ci sono Potremmo stare qua. Ah, beh, forse dentro il cerchio potremmo riposare. Cioè, abbiamo la certezza di non essere divinati, quindi possiamo Gli stare qui insetti quanto entrano vogliamo. anche nel Ah, cerchio, ok, allora nada. Vabbè, per loro stendiamo una però rete. ma gli insetti sono il flavor di Katta per evitare che ci possiamo riposare. No, è proprio Che scritto cosa così, c'è mi oltre? dispiace. Oltre ci Tanto adesso sono. io e te siamo maledetti, Ma Scusa, quindi. No, la tizia ci stava chiaro, chiaro. dentro un cerchio. Vede le rovine di una chiesa con annesse un cimitero. In cui al centro, cioè al centro, non al centro, insomma, nota che c'è un monumento funebre più grande degli altri. E poi più sotto, qui, c'è una magione, le rovine di una magione, e dalla parte sud, all'entrata sud del villaggio, quindi dalla parte opposta rispetto a dove siete voi, e sono costruite su un terreno più elevato e sono state ridotte a chile di sassi e di legno marcescente, ma ancora rimangono in piedi qualche arco, qualche finestra d'arco, e al sud di queste rovine c'erano una volta dei giardini che adesso sono completamente, come dire, è cresciuta a dismisura la vegetazione, quindi sono completamente in disordine, e che sono circondati da mura in frantumi, che ormai non sono più in grado di contenere la vegetazione all'interno. In tutto questo chiedo a Marco, che chiede a Marco se ha visto qualche movimento. Sì, ad est di queste rovine qualcuno ha eretto un recinto in maniera molto grezza, e all'interno del un recinto circolare all'interno del quale ci sono diverse capre di montagna. Sopra i pali di questo recinto ci sono dei teschi umani. Teschi umani. Ogni paletto ha il suo teschio. Ma invece le urla dei Martico? Passando vicino alla capanna sull'alber si sentono i versi di diversi volatili, di versi di corvi. Sulla capanna, quindi, proprio della tipa? Sì, proprio nella capanna che lui ha visto. Sa va, va bene, dai. Quindi, con questo... Direi che possiamo chiudere per Grazie. Oggi. Ho un'idea per attirarla, le rubiamo una capra. Stupriamo la capra. Sì, si può fare tutto, anche se non credo che riusciremo a tirarla fin qua su, purtroppo. Una settimana per complottare, litigare, e comunque non... Sai che lo facciamo in diretta. Ci piace fare. Tanto noi facciamo i meglio piani che esistono e poi tanto il catafavì. Sì, esatto. Quindi infatti è un po' che alla fine abbiamo rinunciato ai piani. Vinco col no, è vero, l'ultima volta ci abbiamo provato ed è stato inutile. Quindi sì, dobbiamo... Ma noi ci proviamo sempre. Ma sbagliamo, infatti adesso noi dovremmo andare lì e caricare a testa bassa la capanna. Cioè, magari ecco, l'unica cosa che potremmo fare è andare dal recinto delle capre, liberare le capre, metterci a cavallo delle capre e caricare la capanna. Bellissimo! Con Arci che ne evoca altre. Io posso fare il capogregge. Da montone, esatto. Io le comando. Esatto, tipo uno va lì e gli fa: lei mi voleva mangiare, ma ora sarete voi a mangiare lei. Scusa, da montone io le comando. Sono le mie slaves adesso. Minchia, la cavalcata del fronte di liberazione delle capre di montagna. La cavalcata delle capre di montagna, pazzesco. Bellissimo. Prossima volta non si Star Wars nell'ultimo Star Wars, esatto, che dice, è vero che vanno proprio con i cosi sullo Star Destroyer, un certo di cavalli sullo Star Destroyer, l'avevi rimosso. Ho visto l'uomo che uccise Don Quixote con Adam Driver, sempre carino. Sì, sembra carino dal trailer. Va bene, non tergiversiamo, grazie a chi ci ha seguito, oggi credo praticamente nessuno, a dire la verità, e poco male, avete comunque... Ha avuto più successo la puntata di... Sì, forse per questo back to back non c'ha... forse abbiamo saturato un po' il nostro pubblico, no? Esatto. Ma voi sapete che lunedì ci potete sempre trovare lunedì sera, e ci potete trovare anche nel weekend, sono da capire sabato e domenica, probabilmente sabato pomeriggio con Umbra Imperium, il nostro appuntamento da quarantena consolidato. e se non ci sono defezioni particolari, soprattutto quella di Giulio, che potrebbe essere un po' importante. E comunque grazie per averci seguito, se non l'avete fatto in diretta, poco male, ci potete ripescare sul podcast, anche perché la maledizione di Katta subirà un'accelerazione nei prossimi giorni con la pubblicazione di vari articoli, e quindi ovviamente Katta, tu sei invitato a non mollare adesso la presa, perché sei molto, sei molto vicino ad essere in pari, e dopo sarà fantastico, sarà meraviglioso, sarà una situazione incredibile, così visto come che quelle che sappiamo potremmo chiudere ricordando che oggi è la liberazione, è l'anniversario del... e noi lo passeremo, è vero, ma soprattutto oggi sarebbe una grande festa, cittadini dell'impero. Esatto, questo sì che è importante. Che festa è? È il giorno della fondazione di Roma. Ah, questo? La fondazione della città. Questo, allora, è... questo direi che è molto più importante, se mi permettete. Comunque, prima di innescare polemiche sterili, diamo, che già che sapete sono un po' la nostra specialità, vi diamo appuntamento ai prossimi episodi di Tycoons & Dragons Rip GDR, sempre su questi nostri canali soliti, Umbra Imperi nel weekend, maledizione di Katta prossimo lunedì, insomma ormai ci conoscete e sapete bene come evitarci, no, e voglio dire come seguirci. E buonanotte a tutti, un ultimo pensiero che ci vuoi lasciare, Marco? Sei laggato, cosa hai detto? Un ultimo pensiero che ci vuoi lasciare, Marco? No. Grazie. Splatto. No. Grazie, Marco. Ciao a tutti.